Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Il 24 aprile del 1942 a New York nasceva una delle migliori artiste di musica di tutti i tempi. Con oltre 72 milioni di album venduti negli Stati Uniti e con un totale di 245 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dire cantante è assai limitante, lei è molto di più. Celebre attrice dal piglio geniale camaleontico, artista a tutto tondo, ci ha fatto emozionare, piangere, sorridere, commuovere. Funny Girl, Come eravamo, È nata una stella, sono solo alcuni dei bellissimi film in cui la sua luce ha brillato. Signore e signori, lei è Barbara Streisand e questa è la sua The Why We Were. Memories like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind. Smiles we gave. Signori miei, benvenuti a una nuova puntata di Voice Anatomy. Oggi è il 24 aprile del 2016, sono le 14:32 minuti e 14 secondi. Certo, è un po' in antitesi con questa canzone presentare il primo ospite di oggi. Sorrido perché veramente il contrasto è entusiasmante. E abbiamo in diretta con noi uno dei padroni di casa di Radio 24, è Giuseppe Cruciani. Ci sei, Giuseppe? Ciao Pino. Vedi, ciao ragazzi. Tu ti hanno sempre chiamato Giuseppe, io mi chiamo Giuseppe anch'io, no? Ma te ti hanno sempre chiamato Giuseppe, mai Pino, Peppe o qualsiasi altra cosa. Guarda, se devo dirti una cosa, mi avessero chiamato Pino sarebbe stata una tragedia, perché sì, odio questi soprannomi. Queste diminutivi. Pino, Peppino, non ne parliamo noi. Certo. Peppe, qualcuno mi chiama Peppe. Ecco, Peppe, pensa, io e te a Natale faremo un successo straordinario in diretta insieme. Pino e Giuseppe. No, le palle Giuseppe. Ce le mettiamo. Amico mio, senti, no, hai visto, cominciamo con The Way We Were per ammorbidire proprio l'intervista, perché io voglio conoscerti da un altro punto di vista, ti giro intorno, sei diventato un personaggio e lo sai. Come nasce però il personaggio Cruciani, caro Giuseppe? Come nasce? Perché poi soprattutto ha un grandissimo riscontro col pubblico e quello è ok. Ma come nasce? Quando hai capito che cosa stavi facendo? Sicuro, io non ho mai progettato nulla, non ho mai pianificato niente, sono negato a fare le scelte, spesso ho paura, sono timoroso, sono incerto. E dunque tutto è avvenuto quasi per caso, liberandomi un po' di quella patina che di solito deve avere un conduttore, esatto, di uno speaker, che è un po' spaziale. Attento che sento il codice fiscale, Giuseppe. Un po' vigile urbano. Ecco, diciamo. Fermati lì. E il vigile urbano nel tempo si è trasformato in una specie di leone all'interno di un campo di battaglia, diciamo. Ti sei liberato questo dalla gabbia. È venuto quasi naturalmente, non so come dirti. Io sono cresciuto molto tardi, non sono stato né un prodigio da piccolo, non ero particolarmente dotato su nessun fronte. No. Stiamo parlando di metri, non di centimetri in questo momento, no, però Giuseppe. Sì, no, cioè dicendo che non sono uno di quelli che a 25 anni, 26 anni già sapeva che cosa doveva fare. È venuta la radio a un certo punto ed è venuto fuori, sono venuto fuori così in maniera quasi spontanea. Senza pianificare niente, a un certo punto ho deciso di essere me stesso, come ne sono nella vita, sono la radio. Ma infatti poi funziona, perché poi io, poi studiando la voce in tutti i suoi meandri e declinazioni, io ho notato una grande, grande sincerità in quello che dici, anche nell'estremo di quello che fai. Mi ha divertito sempre, non ti conoscevo, però dico, cavolo, mi hai fatto compagnia per strada non sai quante volte e non vedevo l'ora di conoscerti. Poi il destino, questo sliding doors, ci ha fatto incontrare. Senti, ma che rispondi a quelli che ti dicono sei un provocatore ad ogni costo, credi che tu possa vivere e marciare delle tue provocazioni? Non è così a questo punto? Ma guarda, ci stanno tutte le critiche, figuriamoci, io vivo di polemiche, noi che facciamo questo mestiere in generale viviamo di polemiche, di cose che la gente ci rimette addosso e ci giudica dall'esterno, ma è normale che sia così ed è anche giusto così, sarebbe un mondo irreale quello in cui le persone tutte d'accordo. Oppure no, non sono tutti d'accordo, ma che cioè non ti possono conoscere, dunque ti conoscono solo per quello che sei. Esatto. Tu non mi conosci, come fai? È giusto che sia così, perché non è che ti possa mai così, una delle persone che ti ascolta ti può conoscere, dunque ti giudicano per quello che tu esprimi alla radio, e certamente è tutto quello che tu, che tutte le cose che dico, che faccio, sono sempre. Giuseppe, stai in un punto dove non prende bene, mi senti però? Aspetta un attimo, ti senti? Mi senti adesso? Sì, sei, ogni tanto si sente il codice fiscale, Giuseppe, non so dove stai. Dove sei? A Milano adesso? Sei a Milano? Dove? Niente, hai capito? No, sono ripartito per... Cioè, praticamente anche il telefono ti conosce e preferisce bipparti prima che tu cominci a parlare, capito? Secondo me... è il maledetto iPhone che funziona peggio degli altri adesso. Ecco. Ecco, andiamo subito una buttata all'Apple, così. Sì, poi io devo fare come fai con Parenzo, mi devo incazzare adesso. Dai, ma dove stai con sto telefono? Traffico. Adesso ti sento bene, amore mio. Non so se qualche altra donna te l'ha mai detto, ma io ti sento. Allora, ti dico che cioè, è giusto che le persone pensino così, ma non c'è nessuna pianificazione in quello che... Sì, sì, infatti, come hai detto all'inizio. Ma non c'è, non pianifico niente, nemmeno le provocazioni che devo fare mi vengono così. Quando ho detto quella cosa sui 200.000 euro, sì, sulla proposta è indecente. Una cosa che mi è venuta parlando dell'utero in affitto, capito? Siccome pensavo che l'utero in affitto fosse, e penso che sia una cosa giusta, mm-hmm, la possibilità che qualcuno possa affittare una parte del proprio corpo, allora ho detto, ma anche... Cioè ogni cosa ha un prezzo, no? Esatto. Se hanno tantissimi soldi posso rinunciare anche a questa roba qui. Per cui tu hai il colon in affitto, cioè il colon ascendente in affitto, cioè comunque in prestito o discendente. C'è il cartello. C'è, senti, il cartello qui, che dondo. Qui mi dice, leggo una cosa che non sapevo, perché noi abbiamo una bravissima capo autrice qui progetto, che insomma, essendo pure lei laureata, io no, sono solo diplomata all'ISEF, e si capisce dal corpo, no Giuseppe, tu lo sai. Devo il mio successo al mio corpo, io non a nient'altro, si vede, no? Tu hai fatto una tesi di laurea su Sendero Luminoso, cioè già da qui si doveva capire la natura del tuo approccio all'informazione. Ero all'epoca una persona che volgeva verso la serietà, cioè, che aveva ambizioni di serietà, quindi parlavo di cose che riguardano il terzo mondo, sai, le cose, mm-hmm, i movimenti rivoluzionari, queste cose un po' nascoste, cioè era più figo laurearsi in storia del Perù piuttosto che sull'Italia, per cui faceva più figo. Allora ho fatto questa roba qua, ma è finita presto quest'epoca un po' in cui pensavo che le cose internazionali sono più importanti di quello che avviene a casa nostra. Come succede qui? Tu sei nato a Roma, no Giuseppe? Sei io sono nato a Roma, ma non sono un romano abbastanza tipico, nel senso che non sono né romanocentrico, non sopporto un po' la concentrata di romanità, e ho un'allergia dopo due giorni che sono a Roma, e ormai Milano è diventata la mia città. Beh, è strano sentire, no? È come se un napoletano apprezzasse di più vivere in Valle d'Aosta come idea, perché no, Milano è una città ottima per lavorare, sono stato tantissimi anni e ho imparato ad amarla, assolutamente, anche se lì per loro il traffico non è il nostro. Mi fa ridere quando tu chiedi una strada a Milano e dici scusi, devo arrivare a Piazzale Loreto, quelli ti guardano e fanno, da qui? A quest'ora? Ma non conviene, vabbè, ma io ci devo andare, che devo fare? Io ci devo andare, no, la lasci stare. Per cui sei uno dei pochi, anche Ramazzotti credo di aver sentito, Eros Ramazzotti, che non è romanocentrico, e poi essendo di Cinecittà, ma non voglio dire una cosa che non ho sentito dalle sue labbra, però mi suona sempre un po' strano. Senti, ma guarda, io la realtà è molto semplice, che io non, ormai se devo pensare un po' alla mia città penso a Milano, non so perché. Non penso più a Roma, è venuto così, e ho cominciato ad apprezzare tutte le cose che di solito si disprezzano di Milano, cioè la sua essere totalmente anonima come città, il suo essere, come uguale, dire, anche in parte grigia, non particolarmente, come si dice. Sì, ho apprezzato, cioè amo il nord, questo è il punto, cioè amo il nord in maniera viscerale, cioè amo il nord Italia in maniera viscerale, che devo fare? Qui arrivano un sacco di messaggi, devo dire, belli, perché nessuno, Cruciani non è questo mi sembra il più carino, il più completo, non è quel che sembra, ho una foto con lui e Parenzo, fra parentesi l'hanno messo, e quando l'ho chiesta non mi ha assalito, cioè si aspettavano che tu gli menassi, ed è un grande perché sa tirare fuori le contraddizioni ed è anche il peggio, di soggetti di variegata natura, grandissimo, è vero anche quando sbrocca, ti dice Carlo da Latina. Altri fanno i complimenti, però insomma questa mi sembrava una cosa completa. Si aspettano, se ti chiedono un autografo, che tu gli dia una capocciata sui denti. No, ma quelle sono... Ma dai. Dico, guarda, a parte che in 2 ore e mezzo di trasmissione, Pino, è soltanto... cui c'è tantissima adrenalina, sì, in cui c'è la, come dire, molti contrasti, in cui c'è una specie di fight club, no? Sì. Questo è un po' la sostanza della cosa. Poi ovviamente ci sono anche dei momenti, altrimenti non, la vita non è fatta solo di contrasti, è fatta anche di momenti di relax, dico, per cui siccome io faccio la tradizione come vivo, sono 2 ore e mezzo in cui cerco di portare la vita delle persone, e poi anche un po' di ironia, di presa in giro, c'è tutto in queste 2 ore e mezzo, cerco di farci entrare tutto, magari qualche volta non ci riesco, qualche volta ci riesco meno, per cui ci sono anche momenti in cui ognuno di noi ha il suo lato social, il suo lato, diciamo, gentile, il suo lato perfido, il suo lato da stronzo, il suo lato da pezzo di merda, e cioè, io tutto questo vive in 2 ore e mezza. Cioè, tu sei come Guerre Stellari, però sei tutte e due, sei Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, ce l'hai tutte e due, il lato oscuro della forza è in te, io ti vedo con questa spada laser, o poi ce l'hai rosso o blu, quello che prevale. Poi prevale quello col salame in mano, è chiaro che poi c'è l'immagine di io col salame in mano, però c'è un'immagine riduttiva, però è giusto che sia così, perché la società dell'immagine e della comunicazione, tu lo sai bene, è la società della... Cioè, quando mi invitano alle trasmissioni sportive, dici tu sei i tifosi della Lazio, mi dicono, tu lo sai bene, sì, ma tu devi far tifoso della Lazio. Certo, perché lo so. Non fai il tifoso della Lazio in televisione? Io dico, guarda, io sì, sono tifoso della Lazio, ma perché devo fare il tifoso? E poi che vuol dire fare il tifoso della Lazio? Loro vogliono che uno si esprime come al massimo, cioè loro mi hanno visto sempre in campo, per esempio. Io una volta non ho accettato, ho riso su una provocazione di Gagliani quando perdemmo tanti anni fa 2-0 con il Milan, e sorrisi perché Gagliani mi disse: Insegno, si ricordi che lei lavora per noi, per cui era ovviamente una provocazione ironica, e io ho detto: ma ci mancherebbe, il Milan ha vinto giustamente. Mi sono ritrovata la settimana dopo in curva che ho scritto: Pino Insegno sei indegno, e ho detto: oh, scusatemi, cioè, ma che ho fatto, cioè, gli dovevi menare a quel pelato. Certo, io vado lì, gli meno, perché vabbè, ma questi sono i tifosi che comunque io amo sia da una parte che dall'altra, devo dire. Anch'io, non è quello il punto è che le persone erano un esempio per... sì è chiaro ti guardano in un certo modo e pensano che tu debba essere sempre quello là. Esatto. Io, senti, stiamo per andare in pubblicità, tu lo sai che c'è il traffico che incombe, sì, però un minuto c'è, abbiamo parlato di romanità, di Roma, di Lazio, sì, eccetera, ma come oggettivamente questa vita meravigliosa di Frank Capra con protagonista Totti, come l'hai vissuta? Io devo dire entusiasmante. Questi due... No, la vita è meravigliosa, sembrava un film di Frank Capra, i 2 gol di Totti, sì, domenica scorsa. Sì. Beh, neanche uno sceneggiatore. Io ho grande stima di Totti, sì, non è mai stato per me un avversario da abbattere. Mai, devo dire la verità. Ho sempre in qualche modo invidiato la presenza di una persona, diciamo così, carismatica. Porta bandiera, vero. Nella mia squadra, diciamo, nel mio nemico come squadra. Sì. Però io sono in questo momento sono molto, molto spalletiano. Cioè, penso che alla Roma c'è bisogno di ordine, c'è bisogno di... c'è un po' bisogno di detotizzare la Roma, e penso che è giusto che la Roma abbia un centro di gravità che non sia più quello che è stato il centro di gravità per 25 anni. Questo lo penserei a prescindere da Totti. Da Totti è comunque un grande campione, non deve essere Totti, sì, centri. Comunque, vabbè, era solamente perché è una bella favola, ogni tanto accade anche nella vita le cose impossibili. Resta con noi ancora 10 minuti, un minuto di pubblicità. Dillo tu, traffico. Non so se c'è comunque traffico. Tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Sulle note pompose dell'amico Stefano Mainetti, grande compositore, ritorniamo in Voice Anatomy con un amico vostro, soprattutto nostro, ma vostro di Radio 24, Giuseppe Cruciani. Prima di partire, stiamo ancora 10 minuti insieme, caro Peppe, non ti arrabbiare, non mi mandare a cagare, ti prego. No, mi senti meglio adesso? Sì, ti sento meglio, perché arrivano dei messaggi, vogliamo sentire meglio Cruciani. Ecco, lo sentiamo meglio. Sei bravissimo, Cruciani, uomo vero, parla a voce alta. Un altro dice quello che pensa, evviva, è come me, dice Francesca. Vabbè, sei come Francesca. Senti, tu hai scritto anche 3 libri, caro Giuseppe. Questo ponte è stato a fare, a proposito del ponte di Messina, Gli amici del terrorista sul caso Cesare Battisti, Cattivissimi noi sul programma La Zanzara. Preferisci una forma più immediata di comunicazione come la radio oppure una più intima e riflessiva come la scrittura? Come ti esprimi meglio? No, dove vai? La radio. Guarda, ho capito una cosa. Ho capito che uno nella vita deve far meglio. Infatti i libri sono stati sempre una faticaccia enorme. Tra l'altro non ti fanno guadagnare un euro. Come il teatro. È una cosa terribile. Però danno grande soddisfazione perché sai, ho scritto un libro, no? Certo. Una volta c'era questa roba qua, dico, uno se scrive un libro, oggi i libri li scrivono francamente tutti, per cui sì. C'è chi li autopubblica addirittura. Per cui no, la radio, a un certo punto ho capito che uno per far bene una cosa deve fare solo quella. Chiaro che poi o comunque deve concentrarsi in particolare su una cosa. Io a un certo punto ho capito che mi dovevo concentrare sulla radio e mi sono concentrato sulla radio, anche la televisione, per esempio. Fatta, si toglie, sì, ma toglie quell'evocazione che tu costruisci per radio, devo dire la verità, Giuseppe. Quella, tu hai una forza, e questa è una, proprio un'altra domanda che provo proprio farti, visto che qui parliamo di voce in tutte le sue declinazioni. Sì, che poi sì. Tu pensi che la voce sia determinante nella comunicazione, non la bella voce, perché non serve la bella voce, la voce vera. Io credo che... sì, vabbè, tu inutile lo dico a te che con la voce hai, no, io hai tantissimo. Ci faccio l'amore con la voce, per cui c'è proprio c'è campo. Sì, diciamo, io penso, guarda, io difficilmente mi riascolto, per esempio, e non penso di avere una voce melodica, una voce strutturata, o una voce particolare. Però ho è vera, di voce... è vera, però come, è vera, sì, è vera. Questo forse sì. Come intenzioni e come tutto, non puzza di bruciato, insomma, come si dice da ste parti. Credo che sono sempre piaciute le voci in assoluto, e ho avuto questo dono, fortuna di avere una voce che convince, o comunque una voce che attira, che fa fermare, perché poi è quella la cosa, una voce ti deve far fermare, ti deve far, una voce alla radio tu devi, no? Ti devi lasciare, sì, sì. Ti deve lasciare lì fermo. Assolutamente, qui arriva un altro messaggio, vabbè, invitate anche il signor Parenzo, così lo conosceremo nella sua verità. Grazie di Luigi. Un altro dice, caro Insegno, Cruciani è un grande paraculo. Va bene, paraculo non so... Non so che vuol dire, no, paraculi, però. Paraculo, nel senso che uno gli tira un culo e quello lo para, ma non quello... paraculo, esatto. Paraculo, paraguru si diceva una volta, io dico paraguru. Senti, tu pensi di essere un ottimo o un pessimo oratore quando ti butti nei tuoi monologhi? Tu pessimo, dici pessimo. Io sono più nell'uno contro uno o nella dialettica molto veloce, molto rapida. E chi pensi, perdonami se ti interrompo, chi pensi di essere attualmente invece un ottimo oratore o un pessimo oratore? Cioè, davanti a te qualcuno che fa dell'orazione, delle voci, qualche cosa del suo mestiere? Ti viene in mente qualcuno? Apprezzi no, qualcuno? Mi piace, nei monologhi mi piace, però sono sempre sul comico, mi piace, diciamo, Saverio Raimondo non mi dispiace. Uh-huh. Non ci sono molte persone che ormai fanno monologhi, eccetera. È passata un po' questa epoca. Mi piace Giorgio Montanini. Vedi, vai su nomi paralleli difficili, per cui c'è una grande ricerca, sì, no, da parte tua. E non mi hai detto Bergonzoni, che io adoro Alessandro Bergonzoni, un altro particolarissimo, però puoi amarlo, sì, o non amarlo. Ogni tanto mi piace. O Albanese. Mi piace Natalino Balasso. Senti che nomi che tiri fuori, ti giuro. Mi piace, ma io li studio, eh. No, no, ma lo vedo perché io spero. Mi piace Natalino Balasso perché mi piace ovviamente la sua cosiddetta volgarità, cioè il suo eccesso. Mi piace il suo eccesso, e mi piace Montanini perché Montanini è uno che trasforma l'invettiva in qualcosa di comico, cioè l'invettiva, diciamo, politica. Una parte comica molto forte. Senti, il più nemico bel pubblico, sì, nemico dimmi, pubblico dimmi. È una grande trasmissione come su Rai 3. Ah, la vedi, ma è bello parlare bene. Quanto è bello parlare bene delle persone? Io ogni tanto ma io parlo benissimo di moltissime, esatto, persone. Sì, sai, sì, che sì, non ma parlo giusto. Quasi mai male, ma io non ho mai parlato male di una ovviamente do dei giudizi con una cosa, certo, che mi può piacere o non piacere, ma io non ho mai parlato male di un'altra trasmissione radiofonica, mai. No, ma è giusto, mai. Anche perché la radio veramente credo che sia un elemento, insieme al libro, più bello al mondo, proprio evocativo in tutto, no, e per tutto. Quando qualcuno ci mette se stesso, quando qualcuno ci mette, come dire, la propria personalità, al di là del fatto che possa piacere o non piacere una trasmissione, cioè non è che io dico fa schifo, vedi quello che cazzo fa. Sì, non è gratuita la cosa, certo. Ma non, cioè, la trovo una cosa ridicola, cioè, posso dire quella roba lì non mi piace, quella roba, sì, lì, certo, non è onestà intellettuale, no, pure questa, no, è giusto. Senti, qui mi dice, leggere è favoloso, la radio è una forza della natura, la voce è un dono e deve sbalordire. Va bene, noi ci proviamo. Senti, il più bel discorso fatto nella storia, questa è un'altra cosa che volevo mettere in Voice Anatomy, prendere dei discorsi, sì, importanti della storia e studiarli. L'altra volta con un vocologo dei politici, abbiamo studiato le voci dei politici ed era veramente divertente, ha fatto in modo di togliere le consonanti e abbiamo studiato il diagramma vocale di Grillo piuttosto che di Renzi, di Hitler, eccetera, e sì, lo studio era straordinario. lì veniva fuori solo rabbia, rabbia identica, insomma fu un gioco bellissimo. E vorrei mettere dentro la trasmissione questi discorsi straordinari della storia. Tu qual è? Ce n'è rimasto uno in mente? A me c'è quello di Martin Luther King, per me è il massimo dell'orazione. Attore della storia, magari no, dell'Italia mi piace, non so, dell'Italia posso dire quello che mi ha colpito, ma sì. Non do nessun giudizio, ma non c'è destro, sinistra o centro. Quello che mi rimase più che mi ha colpito di più nella mia è stato il discorso, fu il discorso di Craxi alla Camera, quello sul finanziamento pubblico dei partiti. Quello fu un discorso epico, diciamo, da un certo punto di vista, perché segnò da una parte l'inizio della fine di Craxi e dall'altra diciamo la denuncia che tutti quanti avevano ricevuto finanziamenti illeciti dalla politica. Quello fu un discorso diciamo in parte vero, ma comunque che ha segnato una svolta nella storia dell'Italia. E quelle sono cose importanti. Io sì, ero andato un po' sull'esterofilia, Craxi aveva una grande capacità oratoria, era un grande oratore e tutti lo riconoscono, anche i suoi nemici, adesso detto al di là della sua, come dire, no, di quello che poi è successo nella storia italiana. No, ma infatti io quando si parla di queste cose bisogna staccarsi assolutamente dal pensiero soggettivo, quello della politica, del colore, perché se vai a studiare il Mussolini oppure Berlinguer o Almirante erano, no, straordinari oratori, sì, erano asetticamente, non quello che dicevano, ma magari qualcuno anche quello che diceva, per carità. Il carisma, la forza. Era un enorme carisma da questo punto di vista. Io non avevo nessuna attrazione per Craxi, politicamente non sono mai stato socialista, oggettivamente così. Senti Giuseppe, sono rimasti un minuto e mezzo insieme. Ci sono delle persone che costituiscono per te dei riferimenti nella tua vita professionale e personale, oppure che sono più amici o così, di riferimenti no, perché faccio una cosa talmente particolare che non assomiglia a nessuno. Diciamo dei riferimenti americani, sì, certamente Howard Stern è stato un riferimento, esatto. Ma il primo Howard Stern è un riferimento per la sua per il modo in cui è fatto, ma stiamo parlando degli anni Ottanta. Allora, se vuoi ti cito anche altri conduttori radiofonici americani, cui non è che mi sono ispirato, che ho studiato, perché certo. Per fare la radio un po' bisogna anche studiare, uno non può pensare di fare la radio senza studiare quello che c'è stato nella storia della radio, è una cosa ridicola. Questo ovunque, cioè, certo. Ma se uno vuole fare la radio in un certo modo, parlando di attualità, in programmi in cui c'è molto talk, come si fa a non conoscere quello che è successo nella storia della radio? Cioè, Talk to Me, se uno non ha visto Talk to Me e la storia di questo carcerato, sì, che poi è diventato conduttore radiofonico in un'America che non è certamente quella di adesso. Cioè Sei anche vicino agli standing, quelli tipo Lenny Bruce, anche lui non faceva radio, era uno standing comedy, sì, ma lui graffiava, sì, menava, picchiava, sì, sì, e andava oltre. Qualcosina, però più, sai, la radio è molto diversa da uno standing, se uno mette a fare orazioni alla radio... Perde. Perde, non è detto, però insomma è una radio particolare. Ma sì, c'ha una vita breve. Senti Giuseppe, grazie di questa mezz'oretta insieme, tanti messaggi. Cruciani non dovrebbe lavorare con Parenzo, la sua immagine viene sminuita. Questo dice. Sono zanzara dipendente, non è vero, sono d'accordo con te. Sono zanzara dipendente, ottima droga, bravo Cruciani, oggi Cruciani va bene, eccetera. Grazie Giuseppe, grazie di questo incontro. A te, forte, grazie. E allora, dopo questo primo momento con l'amico Giuseppe Cruciani, cominciamo ad entrare ancora di più nel mondo della voce, come sempre con un attore doppiatore di turno, e adesso stiamo andando in pubblicità, non lo presento, ma è un grandissimo anche lui. E allora, a tra poco con Voice Anatomy, rimanete con noi perché è appena cominciata. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Voice Anatomy. Bentornati, signori, a Voice Anatomy, il viaggio attraverso il mondo della voce. Sono le 15.30. secondi, è cominciato pure il campionato, ma noi abbiamo cominciato mezz'ora prima, per cui non seguo più il calcio da un po' di tempo. E vicino a me, dopo Giuseppe Cruciani, è venuto un amico, ovviamente un collega straordinario, un attore, doppiatore, ma soprattutto un grande scultore. Lui è Oreste Baldini. Salve a tutti, buonasera. Ecco, lui è impaurito perché non gli piace. Non ti massacro, non mi vendico di tutti i film che mi hai massacrato. No. Tu nasci a Milano, Baldini, la tua famiglia? Sì, sono stato fino agli 6 anni a Milano. Baldini, tutta proprio sono 2000, perché c'è sei tu. Come dice te, sono come i pidocchi. No, c'è Nanni Baldini, tuo fratello, che verrà presto, Ciuchino e quant'altro, Rita Baldini, Antonella Baldini. Chi è che è andata allo Zecchino d'Oro? Antonella. Ha vinto nel 70 con la nave Gelsomina di Rindirindina. La nave Gelsomina di Rindirindina. È da lì che la famiglia ha avuto quella. Sì, voi siete una famiglia di geni folli, per questo. Compadre Sheridan, poliziotto. Ah, tuo padre è poliziotto? E questa cosa non ho mai saputo. Quando ci accompagnava i turni, tutti a terra, piazzava gli uomini. Mamma invece? Mamma casalinga. Non ti preoccupare, E com'è nata questa cosa? Allora, tu non sei un figlio d'arte, anche tu sei un figlio d'arte. Antonella ha vinto lo Zecchino d'Oro, poi fu chiamata da De Sica perché gli serviva la bambina, aveva vinto lo Zecchino d'Oro per un film, lo chiameremo Andrea, una cosa del genere, da lì abbiamo cominciato. Era bellissimo, con Nino Manfredi, con Angela Malato. Ma poi la cosa bellissima che forse non tutti sanno, magari sanno quanti film hai doppiato, dai John Chiusa che dopo sentiremo, da delle cose straordinarie come Madagascar, il tuo lemore, come si chiama lui? Re Julian. Quello non ti preoccupare, che Re Julian lo facciamo. No. Però tu hai fatto uno dei film più importanti della storia, cioè tu sei stato voce, volto e fisico Don Vito Corleone da piccolo. Cioè l'inquadratura 74. Del bambino che arriva dall'Italia col cartone e le corde, girato a Trieste tra l'altro, quella scena fu fatta tu a Trieste. Sei Don Vito Corleone, non parla però nel film, però canta, c'era Nino Rota, c'era Viano Scicare e tu m'avevo saporito, e dovrebbe insegnarmi questa cosa. Poi sono stato tipo un mese e mezzo a casa di Coppola perché pioveva sempre, e ogni volta andava sul set, non ti dico i soldi, andava lì, no non mi piace questo, non è lo solo dove sotto, e si tornava a casa. Lui parlava così, italo-americano, quello brogolino vero. L'ho rivisto quando ha girato il numero 3 qui a Roma, sono andato a trovare. Parlo, sono molto carino. Però non ti sei ricordato di, sai quanto un amico ti poteva portare? Perché faceva la figuraccia, lascio perdere, no? Ma come la figuraccia? L'accompagnavo con la macchina, ma guarda che sei fuoco, Francesco Forcoppola. Senti, stai più vicino al microfono. Guarda che ha un doppiatore, direttore di doppiaggio, devo dire, stai più vicino al microfono. Cioè, una vendetta mia straordinaria. No, tanto capiterà un altro film, spero presto. Sì, voi dovete capire che con lui si fanno dei film dove tu impazzisci, perché sono film comici. Lui arriva preparato comunque. Già sta messo bene, però voglio dire, sì, arrivo perché soprattutto quando ti danno Will Ferrell, perché lui cambia proprio il film mentre non lo stai facendo. Io edito la comicità, è un'altra cosa. Lui dovete sapere che anche il direttore di Una notte da leoni, tutti e tre, sei il direttore, ma sei anche una delle voci straordinarie. Ce l'abbiamo il contributo di Un mercoledì da leoni? Una notte da leoni, sì, Mercoledì da leoni, film sul Vietnam. Vecchio sono, ma insomma. Sì, Una notte da leoni. Dove chi doppi? Sei il cinese? Ciao, mister Ciao. Che cretino. Ascoltiamo un attimo Mr. Ciao da Una notte da leoni. Tocca salame, il panzone. Forza. Io rivoglio il mio borsello, cazzoni. Che è il borsello? Non è un borsello, è un saggio. È un borsello, ok? E voi preso a persona sbagliata. Un momento. L'abbiamo preso a te. Sapete una cosa? Noi non ricordiamo assolutamente niente della notte passata, quindi aiutateci un pochino. Tu ti sei relegato a regalato più che mi sono regalato. Questo me lo faccio io. Questo i cretini. Perché poi quando non li puoi fare a te, mi fai fare a me. Ma i massacri. Non è bello che il conduttore parli di se stesso, non lo faccio mai. Faccio sempre un passo indietro. Ma con te uno c'è questo gioco sempre delle parti, perché lui è veramente una persona divertente e anche intelligente. È vero che gestisci la comicità in maniera interessante. Beh, cerchiamo di far ridere come in originale, insomma, poi. Ci sono cose non traducibili e comunque bisogna stare nella zona, e rendere però divertente la cosa. Sì, però ci sei sempre riuscito, però sei uno difficile perché sì, cambia e perché sono borderline, lo so. Esatto, perché poi ci stanno gli editori. Cioè, o zompamo o esatto, va bene, questo è sempre al limite. Quelli che curano le edizioni hanno sempre un po' paura, perché infatti, questo mi cambia il film. Esattamente. Però devo dire che ricambi sempre. E infatti al controllo io vado con l'avvocato, insomma, quando si fa il controllo. Sì, cioè, il controllo. A quale film sei più affezionato? A quale personaggio di quelli che doppi sei più affezionato? Tu ne fai tanti, ne hai fatti tanti, magari non ne segui tanti da tanti anni, ma ne hai fatto una volta, ha fatti tutti, però non ti ricordi? Non mi ricordo. Ha fatto anche Johnny Depp in Ed Wood, un film straordinario. Film è bellissimo, un film è meraviglioso, su questo regista Nero, spettacolare. Bella Lugosi, questa cosa, sì, spettacolare. Bello, no, quello a cui sono più affezionato, l'unica cosa a cui tengo veramente è Shaggy di Scooby-Doo. Tu dici sei imbecille. È vero, sarò Shaggy. Imbecille. Ci tengo perché quando ero piccolo mi vedevo. Che vergogna. Aspetta, e poi sai perché? Perché poi io non mi ci vedevo, perché ho fatto per un paio di stagioni, io facevo il bello cretino Fred, Fred che è... non mi c'è sta, non c'è, non mi c'è una pincalessa, no, perché tutte sulle trappole, quelle cose lì. E io volevo fare quell'altro e all'epoca lo faceva D'Apporto, Massimo D'Apporto. Sì. Perciò per me era Shaggy. Poi a un certo punto si fecero i provini per un film, quando uscì il film, e vinse il provino per Shaggy, insomma, questa cosa. L'hai fatto poi uguale. In realtà non ho vinto il provino, doveva farlo Nanni, che lo faceva Nanni, poi invece l'ho fatto io, l'ho fatto il cane, insieme le cose, però mo faccio Shaggy, insomma. Com'è Shaggy, come parla? Aiuto, non c'ho paura. Che poi tu sei anche il leone e il cane fifone. Quella, sì, cioè, quello è pazzesco. Ho fatto cosa... solo una puntata, facevo un pazzo, uno scienziato, ma dico, ma lo lascio in originale, originale, poi invece no, dice delle parole in italiano ogni tanto, ma mischiate nell'abbaio. Poco, sì, molto ma poco. Lo fai tutto tu. Le regole di ingaggio erano, prima doppiavano tutti gli altri, sì, poi me le mandavano in cuffia e al volo si faceva. Perché, certo, perché poi con le righe era poi, mi messi d'accordo con Marco Guadagno perché c'era scritto versi per tutto il tempo. No, versi. Aspetta un attimo, versi di che? Parliamone. Esatto, perché voi dovete sapere che il doppiaggio è pagato a riga. Per cui... versi, fatto il piano. Esatto, questo parla cinque righe, ho fatto cinque episodi. Insomma, esatto, versi magari parla un quarto d'ora dei versi. No, ma... come sono i versi di Leone e Cane Fifone? Marilu, è vero, la moglie. I sono i due anziani che succede di tutto. Di tutto, però è fighissimo un cartone. No, è bello, bello, bello davvero. Ma per cui sto scoprendo anch'io tante cose. Tu mi hai detto, non mi ricordo quello che ho fatto, eccetera. Ma tornando a Francis Ford Coppola, scusa, cosa affascinante e bellissima. Hai conosciuto solo lui oppure Diane Keaton, De Niro? No, De Niro sì, De Niro, diciamo, la fila, mi ricordo una volta, era molto corretto, parlando i grandi personaggi, si faceva la fila al catering, cioè, li portava al ristorante. Sì. Non c'era il cestino, lì c'era un vagone, c'era tutto e si apparecchiava, però facevi con il vassoio, andavi a prendere a mangiare e tutti volevano far passare De Niro davanti, perché sai, e diceva perché? Stava bello al suo posto, spettacolare. Era giovane ancora, però sì, già era De Niro. Era già De Niro. Era già De Niro. E poi stava a fare quello. Senti, che simpatico, rido da solo per ascoltare voi due che ridete. L'altro bravissimo Oreste. Vabbè, vedi, tu c'hai paura, ma di cosa? Cioè, tu, vabbè, non sei paura, tu sei molto discreto, come tutti della tua famiglia, perché Nanni l'ho chiamato, dico, guarda, tuo fratello non vuoi venire da solo, vieni a dargli una mano. Non ci sono. No, lui è stato bravo a rispondermi subito, non ci sono. È stato bravo, perché poi ho detto, Nanni, ma accompagni? Io ti porto sotto. Io ti porto sotto. Lascio con la macchina. No, ecco Shaggy, sentite, lui parla come Shaggy. Okay, sì, è sì, cinese. È cinese, e so carriere quella. So soddisfazioni. Ma no, tu fai John Cusack, che da tantissimo nell'attore, uno che quelli devi spiegare spesso, chi è, diciamo. No, abbastanza spesso protagonista dei film di Ronald Nemery. Aspetta che l'avevo scritto sulle parti. Qual è il fatto di John Cusack? Dai, aspetta, non trovo più la pagina. I Perfetti Innamorati, Il Prezzo della Libertà, ecco. Con lei. Camera 2012. 3 stelle, com'era? Camera 1028, c'era una camera, mi ricordo un titolo con una cosa. Quello di Stephen King, sì, una camera d'albergo. Sì, sì, 1868, non mi ricordo. Matematica bocciata tutti gli anni, perciò figurati. Tu che scuola hai fatto? Che scuola hai fatto? Scientifico. Pure te. Poi ho passato all'università, ho fatto qualche esame indirizzo storia dell'arte, dello spettacolo, storia dello spettacolo, e invece poi alla fine ho mollato e continuavo a fare lo scultore. Sì, quella è una cosa di te. Ho fatto fantastico. Un corso in quel pericolo, facevo con Francesca De Sapio, metodo Strasberg, con Susa Strasberg, che l'ho fatta pisciare dalle risate. E da lì ho capito che devo fare lo scultore. Che sto quella. Ho capito che devo fare il comico. Ho detto, ecco, devo fare lo scultore. Non c'è modo. Ma no. Allora sei uno scultore prestato all'arte. Sono l'uno e l'altro, però finanzio la mia arte con la voce. Perciò vivo la voce. Vivi di quello. Però vivo di quello, ma no, poi anche scultura. E poi scultura vera, nel senso che tu hai fatto delle facciate di chiese importanti. Sì, delle, ho fatto chiese a Lourdes. Ho fatto una cappella. A Lourdes? A Lourdes, sì. Ho fatto tutta una cappella che sta su un ospedale d'accoglienza dell'Unitalsi. Molto bella, con degli angeli. C'era l'architetto che... Ho fatto sempre un po' abbraccio, una persona spettacolare, Abruzzini, e ci teneva tanto che prendesse le misure, ma perché era un tetto mezzo inclinato con degli angeli piegati. Ma tu sei, c'ha apparecchio acustico, ma tu sei sicuro che questi angeli vanno bene? Ma perfetto, ok, vabbè, no, mi fido. Se continui così, questo non ti fa più lavorare, però metti che sta sentendo. No, c'ha amore cucciolo, c'ha, ormai lavoriamo poco perché ormai è grande. Allora, ma comunque, invece mi... Io la faccio anche davanti all'imitazione, persona spettacolare. Per cui l'hai fatta a occhio? No, lui, siamo partiti con i cartoni degli angeli e il giorno dopo con un aereo per Lourdes, perciò questi cartoni che non entravano erano piegati come delle quaglie, perciò non sapevano dove entrare, erano enormi perché era credo 4,50 m l'altezza con tutte le ali da qua e là, perciò sono entrato questo aereo, ho schiaffeggiato tutti queste ali e alla fine abbiamo appiccicate nel cesto dell'aereo perché non sapeva dove metterli, li mettiamo lì e partiamo. Mi conosci, io mi dimentico di tutto, ci scendo io e quest'altro pure. Ho lasciato i cartoni in aereo, cioè, Messie Baldini, e c'erano queste hostess che giravano queste guaglie che non sapevano metterle. Messie Baldini, e così era. Perciò questo ha detto, e io mi do fida di te. Siamo arrivati qui per i cartoni. Fai delle cose poi pazzesche. Ha fatto la sfilata dall'altro anno ai mercati Traianei qui a Roma. Non è da 2003. Tutti, bisogna dirlo, cioè non ci si arriva con le amicizie. Mediterraneum, anche al Senato, alla Camera sono stati esposti. Sono al Palazzo Chigi. Palazzo Chigi, ho fatto l'anno scorso, che poi tu fai una cosa dominante, sono questi pesci, ma la mia ricerca è solo di pesci, esatto. Tu che fai l'attore, il doppiatore, la nemesi, fai le cose mute, cioè l'unico animale che non parla. Il pesce è come un'icona, che è un comunicatore tra l'altro, tra l'umano e il divino, è sempre stata la rivelazione in qualche modo, dagli albori dell'uomo questo simbolo insomma ci accompagna. Sì, però è silente, parla con la sua livrea, parla con la sua potenza, con il suo simbolo. A Voice Anatomy non lo posso invitare il pesce, Matteo? Ma sì che lo puoi, parliamone, esatto, meglio parlarne. Parliamone fortemente. Senti, tu rimani insieme, lo sai, un'altra mezz'oretta con noi. Dai, sì, ce la fai? Okay. Senti. Resisto. Adesso stiamo per andare in pubblicità, sì. Okay. C'è la voce di Cristian Ianzante, che è un nostro amore vero amico. Cucciolo. Che con quella voce aspirata, hai visto, Radio 24. Pubblicità. Capito. Vuole rifarle, lui ha detto a Valerio Alessandro. Oggi saluto Valerio, il nostro tecnico del suono, perché la Roma gioca domani sera, per cui oggi lui è venuto, capisci? Noi siamo così. Okay. Non ho mai visto una partita in vita mia. Ecco, esatto, non sei un sportivo? No. No, ma manco fisicamente, si vede però. Non è che... No, ma ha dato adesso un risultato, vabbè, ma è lungo ancora la strada da andare. Saluto Alessia Navarro, che ho già salutato però prima. Però mio cognato ha la tessera della Lazio e ti adora, lo sai, no? Sì, beh, solo per quello, perché è la stessa squadra. Lo vive come un'icona, cioè, oh, Pino. Certo, un tassinaro, Riccardo Rossi, l'ha detto anche in diretta, ha detto, ma che fai, il limitatore? Gli ha detto Riccardo Rossi, ha detto, no, il doppiatore, ma il numero uno è Pino Segno, che è da Lazio, cioè non è che dice perché è bravo, no, perché è Dala. Vabbè, ma qui a Roma si vive il calcio in queste direzioni. Saluto anche ovviamente il nostro amico Damiano Fabiani Berti, l'altro autore. Oggi al posto di Gaia c'è un uomo terrificante con la barba, ma non sapete che pantaloni, meno male che la radio è radio, guarda. Sì, la foto, ma non la vedranno mai. Mi si è presentato come caporedattore, io non so il cognome, come... No, Francesco lo so. No, voglio il cognome. Ecco, Francesco De Remigis, se passate per Piazza dell'Indipendenza 23BC, che è il palazzo del Sole 24 Ore, dove c'è Radio 24, siamo in diretta, lui uscirà da qui intorno alle 17:10, lo capirete immediatamente. Colpitelo, perché è affondatelo soprattutto. Va bene, allora lo mettiamo sui social, è vero, guardatelo, la foto del pantalone di Francesco. Ricordate i nostri social, i nostri numeri di telefono li conoscete, 349-238-6666 per i vostri sms, se volete partecipare 800-24-00-24 e ovviamente Facebook e quant'altro. Va bene, il primo momento con l'amico Oreste Baldini è terminato con la gioia, ma il secondo momento arriva fra pochissimo, abbiamo poca pubblicità, un minuto, solo il traffico, e come dice Cruciani, vai, traffico, traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno come promesso a Voice Anatomy, in diretta dagli studi di Roma di Radio 24, sono le 15, 16 minuti e 33 secondi, al mio fianco Don Vito Corleone giovane, Oreste Baldini, o Shaggy, o il cinese, o quant'altro, quello che vi pare, o quello che fa, o Leone e Cane Fifone, quello che volete voi, ma c'è un film al quale sei più... Beh, Notte delle Uni. Notte delle Uni, Notte delle Uni sono... Sì. Ma una cosa seria l'hai doppiata, sì. Certo, aspetta, non mi viene in mente. La so. Vattene sul tuo sito. Ma non è vero, non sai che di non averla mai fatta. Mamma questa mia, cosa. Non credo. Neanche io lo credo. Insomma, stai dicendo se c'è un film trash, quello è mio. Esatto. Tu l'hai conosciuto, De Niro, mi dicevi, aveva fatto la fila con lui quel giorno che stava girando il Padrino. L'ho conosciuto, ma insomma, ero pischello. E quando è tornato a Roma anche lui per girare Emanuele d'Amore, eccetera, non si è andato a salutarlo. Ma non so mica più un segno, no? Madonna. Chi mi sa fila a me? Ma come che ti fila? Perché a me invece, guarda, per trovare Will Ferrell mi sono dovuto mettere in ginocchio. Stavamo doppiando insieme quando sono andato. Esatto, mi sono presentato da lui, guarda, sto doppiando te. Cioè, fammi entrare. Perché non facevano entrare, ma non era tanto lui quanto tutte le persone che c'hanno davanti, sì, questi sì. Americani, no? Devi fare la domanda, mandare la foto, i documenti, capire chi sei, poter fare entrare. Io chiamata la truccatrice, che è stata un'amica mia. Tu vieni, cosa che a mezzogiorno sto con lui, vieni. E così è stato. Sono entrato e lo conosco doppio da 16 anni. È un piacere conoscere il proprio corpo, a parte che è alto 1,90, Will Ferrell è pazzesco. Sì, bella bistecca. Tu hai conosciuto mai nessuno di quelli che nelle anteprime magari sono presentati? No. Lemure per niente, no, nessuno. Ma tu sei anche la voce di Tim Roth nel capolavoro di Tarantino, questo non nelle dice. Iene. Nelle Iene. Sì, sì, è vero. Ah, nelle Iene. Ho doppiato anche l'ultimo allora di Tarantino. The Hateful Eight. Sì, ho fatto uno dello sceriffo. Ed era sempre Tim Roth? No. Questa volta l'ha fatto, non mi ricordo chi l'ha fatto. Sì, per Tim Roth ero spalleggiate fra te, Massimo Popolizio, anche Lie to Me. No, ma sai, stavolta forse era Marco Mede. Forse Marco Mede. Marco Mede ha fatto Tim Roth. Non ce l'abbiamo un pezzo delle Iene, no, mi sa, vero? Ce l'abbiamo un pezzo delle Iene? Bello, film spettacolare. Beh, ragazzi, teatro. Uscì al cinema. Sì, non so per sì, niente. Vinse a Cannes e lo rimise, stette un anno, addirittura a Gioiello, ricordo a Roma. Ma sì, ma è così, spettacolare, no? Un film meraviglioso. Sì, veramente, non so se a teatro si possa sì, fare una cosa del genere. Sì, è perfetto teatro. Sì, non ci ha pensato mai nessuno, però. Sì, mi sa che qualcuno l'ha messo in scena. Sì? Sì, sì, sì. Sì. Ah, sono peccato, volevo farlo. Non è andata male. Ciao. Ciao, sentiamoci questa Iena maledetta. È successo durante la siccità che aveva fatto sparire tutta la marijuana da Los Angeles nell'86. Non si trovava erba, ma io che avevo più culo che anima... mi ero conservato lo stesso buon contatto. Comunque, conoscevo una tipa hippie su a Santa Cruz e tutti i miei amici lo sapevano. E mi telefonavano continuamente. Ehi, Freddy, acca troia, no. Mi dicevano, ehi, bambolo, va a prenderne un po'. Un po' anche per me. Cioè, siccome sapevo dove trovarla, mi chiedevano di comprarne anche per loro quando ne prendevo per me. Oh, e compramela. Compramela. Compramela. Ogni volta che ne compravo per me dovevo prenderne per 4 o 5 altre persone. Alla fine ho detto, ma vaffanculo tutti. Sto facendo ricca questa stronza e lei non doveva fare un cazzo, non doveva nemmeno incontrarli quelli. Tutto il lavoro lo facevo io. E a un certo punto mi sono rotto i coglioni. C'era certa gente che mi telefonava tutte le ore. Non potevo neanche guardarmi una cassetta senza che arrivassero 6 o 7 telefonate a spaccarmi le palle. Ehi, quando è che vai a prenderla? Ma vaffanculo. Ecco, non c'è Cruciani, però ci hai pensato tu. Insomma, il pomeriggio paleolitico superiore. Paleolitico. Ma film straordinario, è uno dei più bei film di Tarantino questo qua. Che poi te ne eri accorto subito che sarebbe diventato un cult, oppure... Io lo dicevo, questo film è fichissimo. Poi uscì con un nome Cani da rapina. Credo ovviamente non fece una lira per quei 3-4 giorni in cui uscì. Ma ogni tanto dei titoli veramente, perché funziona. Se scappi di sposo, allora faccio se ti lascio, te cancello, se te pio te sponno. Todo titolo, guarda, che ecco, non titoli, mai, ogni tanto qui in Italia il marketing sì, non lo so, svulvola. Perché è questa tira? Sì, certi titoli, per esempio, il Tim Robbins del film Shawshank Redemption, dice Kitchen, in America non ci andò nessuno. Le ali della libertà. Lì invece noi abbiamo azzeccato. Poi fu candidato a parecchi premi Oscar per e fu riscattato anche. Esatto, riscattato perché dice no, stasera vedete Shawshank Redemption. Vado a cinema. Vado al cinema stasera. Oh, non ti viene andare lì a vedere Shawshank. Senti un po', il re è meraviglioso. Lì è il re di Madagascar. Lì abbiamo fatto il provino insieme. Questo lo devo raccontare perché. Ah, questa non la sapevo. Abbiamo fatto il provino perché la voce di lui è Sacha Baron Cohen, che io doppio da tantissimo. Ha dato una capocciata sul microfono. Non è successo nulla. Meglio. Adesso non si ricorderà più manco il suo nome. Viene fuori Shaggy. E no, lo feci prima perché Sacha Baron Cohen in voce, per cui avevo fatto tutti i film suoi. E lì mi battetti tu. E perché quello cantava. Ma che c'è? Cantavo per quello. Che c'è? Mi hai fatto fare anche tu un film dove cantavo La bottega degli... Quanto che Dio mio. Che meraviglia. No, mi chiama, mi dice Pino, c'è un film meraviglioso. Solo tu puoi farlo. Solo tu. Un film di Patrice Leconte, un regista straordinario, che fa il bellissimo primo film a cartoni animati. Si intitola La bottega dei suicidi, dove c'è gente che vende la morte per chi vuole morire, eccetera. Poi gli nasce un figlio ed è felice, che sorride. E loro lo odiano fortemente. Fino a che alla fine vengono contaminati da questo sorriso, questa positività, da questa gioia di vita, e cambia la storia. Beh, il film è veramente bellissimo. Non è per piccoli, perché non è per piccoli, non è per grandi, perché sì, no, non si sa perché è cosa stata una via di mezzo, ma film bellissimo. No, era difficile. E dice Pino, c'è una canzoncina. C'erano cinque canzoni liriche. Canticchia. No, c'era pure Fiamma Izzo che cantava la mia... un pezzo quasi lirico. Esatto. Io stavo con Fiamma Izzo, che è una cantante lirica che voi conoscete, è anche una brava direttrice di doppiaggio, ma cantava lirico. E lui ho detto, vieni con me. E praticamente lui ha doppiato certe volte me che cantavo, che doppiavo l'altro, e non ci arrivavo. Okay. Ma no, non sono però è stato bellissimo. Sì, ho capito, però mi hai massacrato, quello da farò pagare per tutta la vita. Comunque, quando ho doppiato Madagascar, paradosso che perché ti muovi, avevo spaccato tutte e due le braccia. Ero cascato da una impalcatura, da una scultura. Mi sono spaccato tutte e due le braccia, perciò perché ti muovi, e stavo con sti gesti in sala incisione con Brancucci che si incavolava. Non ti muovi con quelle braccia! Mi piace quel che muovi! Ecco. E allora muovi! Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora muovi! Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, ci piace quel che muovi, e allora muovi! Ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Julien che vi parla! Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo, e se muovete la coda, siete sempre in... Dopo tanto la faccio. Allora, Pino, di che colore sono i pantaloni del tuo nuovo direttore? Non è il direttore, è il nostro capo redattore, eccetera. Non c'è un colore. Beh, il dominante è rosa. Sono fucsia. Arancio salmonato. Arancio, ma una cosa che io credo che lo possono gonfiare le botte. Ci sono gli estremi per la denuncia. Sì, perché ci vuole un porto d'armi per quel pantalone. Esatto. Porca miseria. E se gli meni ti danno pure ragione. Ma l'avrà pagato, tra l'altro. Ma secondo me sì. Me lo prendo questo. Allora, grazie ad Oreste per essere stato la voce della nostra infanzia, adolescenza. Luca e Marco Zaffuto da San Biagio. Quanti... che simpatico, eccetera. Pino, di che colore? Va bene, questo l'ho letto. Ciao Pino, ascoltando la tua trasmissione mi hai fatto pentire di non essermi mai interessato al doppiaggio fino ad oggi. Ti ascolterò domani nel podcast. A proposito, sono i podcast sempre da scaricare, poi sono gratuiti e vanno fortissimo. Ciao Pino e ciao Oreste. Oggi è brutto tempo, sto al lavoro, ho litigato con mia suocera. Dai, neanche può dire potrebbe piovere. Potrebbe piove, o esatto. Potrebbe vedere i pantaloni di Gigi Scala. Esatto. Meno male che ci siete voi e le vostre splendide voci. Un abbraccio, visto che la domenica alle 14:30 non si può fa. Un abbraccio. Che non si può fa? Non si può fa. Vabbè, un abbraccio grande Federico Modelli. Ma come sei modesto, sei simpaticissimo. Non so se ce l'ha con te. Con te Pino. Muore molto modesto. Ma c'hai ragione, come disse Groucho Marx, basta parlare di me, parlami un po' di te. Che ne pensi di me? c'è qualcuno che ha detto che sono veramente... Ah, l'avete messo già sul social? Allora andate su... stiamo esulando un po' dal contesto vocale, perché questa è proprio... non è una trasmissione di moda, ma certe cose vanno sottolineate. Per cui se andate sul nostro sito ufficiale di Voice Anatomy su Facebook... potete vedere e ammirare per quale motivo noi siamo così sconvolti dai pantaloni di questo signore. Le Iene l'ho vista al cinema a Londra. Vabbè, l'hai visto in originale. Scusate. Ero bravo. Perché non è carino. Sì, no, perché da tiè. Se sai l'inglese, non, sì, non c'è, meglio. Ha detto tanto che è un grandissimo film, eccellente. Cioè, insomma, ce l'ha col film. È ovvio che noi veicoliamo il cinema e non solo. Reservoir Dogs è il titolo originale degli anni. Sì, quello è il titolo originale, ma da noi è uscito con Cani da rapina all'inizio. Sì. Allora, Oreste, se non mi dedichi subito, fanculo panzone, dirò in giro che non sei un ottimo doppiatore. Che cos'è fanculo panzone? Fanculo panzone, È cinese. È il cinese famoso. Vabbè. Allora facciamo così, visto che ogni tanto voi mi chiedete di fare le suonerie dei ecco vostri telefonini, devo dare il 321, voi piazzate la registrazione e ogni tanto c'è qualcuno che dà i propri tormentoni. Arriverà fra un po' Luca Guarda, che ha finito la tournée, e anche Pannofino, per cui ha voglia a seminare l'inferno, non potrà piovere per sempre e quant'altro, per cui ci divertiremo. Allora, per la vostra suoneria gratuita, io metterò dal 3 a 0 e ti ringrazio. E dai, Oreste, la prendono dal film, se no. Okay. Allora, pronti per il fanculo panzone? 3, 2, 1. Fanculo pino panzone. No, te la sporco. No, no, no. No, la sporco. Falla normale, quella con dedica, no. Ricordate che poi dovremmo lavorare insieme qualche volta. Buono. 3, 2, 1. Fanculo panzone. Bene, avete la vostra suoneria personalizzata. No, beh, è divertente questa cosa. Me l'ha fatto notare qualche puntata fa qualche radioascoltatore che sono attenti. Devo dire che Radio 24 offre veramente un bagaglio di radioascoltatori straordinario, perché devi stare attento quando usi congiuntivi, verbi giusti. Ah, sì? Per me è una malattia dell'occhio. Okay, sì, no. Sì, no, okay. Qui è. Oreste, hai una bellissima risata. Vabbè, qui c'è sta prova. Ormai è che mi ha visto. C'è video qua, no? No, però possiamo mettere subito sulla nostra pagina di Facebook anche la foto che abbiamo fatto io, Oreste Baldini. Damiano, se puoi metterla. Già c'è. Già c'è. Andate lì. Dobbiamo andare in pubblicità, se non sbaglio, vero? E poi affrontiamo l'ultimo blocco insieme a Baldini, perché dopo abbiamo un altro che assomiglia al tuo cognome. Baldi, Alejandro Baldi. Cantante straordinario, un grande amico, non vedo di sentirlo al telefono, e per lui c'ho anche una sorpresa. E se ti va a dire, ma ne rimani, Baldini e Baldi è meraviglioso. Ce li mostra. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci. Fanculo pino panzone. Ma no, non mandare la registrazione. Ma sei proprio, sei terribile. Vai a lavorare con Cruciani e Parenzo. Questo è Valerio. Vabbè, cominceranno a registrare queste cose, è finita. Grazie Oreste Baldini, non nome e cognome. Se vedete una scultura con dei pesci, no. Levategli l'acqua. Il titolo Le ali della libertà, vedi quando dico sono attenti, fu scelto da una spettatrice ad una presentazione del film con concorso al Palazzo dei Congressi di Firenze ed era presente Cecchi Gori. Vedi? Quando dico sono attenti. Sì. Non ho internet, io vi immagino e vivo bene così. Sì. Questo è il bello della radio. Sì, va bene. Vabbè. Ti ringrazio anche di questo, cara Francesca. Questi sono pazzi anche di questo re di Madagascar, re Julien, ormai ti... Cioè, ognuno rimane schiavo su qualcosa. Tu devo dire che su Ray Julien ormai. Sì. Beh, sì, anche se l'ultima serie non l'ho doppiata io, quella l'hanno fatta a Milano. Cioè, la serie proprio dedicata a Ray Julien e non l'ho fatta io. E perché? Perché non me l'hanno. Sembrava, me l'hanno chiamato 2 o 3 volte. Ogni tanto fanno come i videogiochi. Sì, tu fai il protagonista di quella... No, non l'ho fatto perciò. Ma non mi hanno neanche convocato, perciò. Vabbè, fa niente. Questa è sempre quella questione. Stavo bevendo, scusate, un goccio d'acqua. Questo è il problema del doppiaggio di adesso, delle corse, dei pochi soldi, del budget. Fretta, e poi anche da Milano si guadagna il giusto nel doppiaggio, ma insomma poi inviteremo magari chi di dovere più che noi, cioè il sindacalista. E senti, a proposito di Giulia, però rimani tu, lo possono farlo doppiare chi vogliono, insomma, ma non è così. Noi ogni tanto, cioè sempre, quando viene un attore doppiatore, facciamo andare in antitesi con la sua voce rispetto a quello che deve leggere. Andiamo dalle istruzioni della lavatrice piuttosto che con la voce di Heidi, il monologo di Don Vito Corleone, eccetera. Per te è stato scelto una ricetta africana. Ah, che carino! La charlotte africana, vera? La charlotte è un dolce africano. E te lo passo adesso, tanto siamo abituati noi a leggere immediatamente. Per cui molto carino. Mi fai questa. Non ti preoccupare, non succede nulla, non ci sarà nulla. Non ci saranno sorprese, ma per pure Dio resta se io ti faccio qualche cosa. Grazie, Pino. Ma tanto, devo metterti in un nuovo cast. Se sono sicuro, pagherò pegno. E me la fai ovviamente con la musica. Sì, con la musica, non so che musica sceglierà Valerio. Cioè abbiamo una musica allegra, pimpante. Valerio, dammi sto foglio. Strozzate le foglio. Ma non questo. Valerio, ti prego, questa qua è da voce calda e suadente a mezzanotte, una voce, sì, una voce, una musica più pimpante per questa ricetta. Io non sono la Clerici, ovviamente, e tu non sei Cracco, però con la voce di Re Julien. Ma non te la do all'ultimo secondo. 10, 9, 8, 7. Aspetta che la registriamo, perché la mettiamo sempre sui nostri podcast e il nostro sito. E allora, siamo pronti? Hai trovato una cosa degna, Valerio? No, cantala. Come cantala? No, non lo so che cosa ha intenzione di fare. Però l'avete scritto grosso, vedi? Se, sì, perché sapevate in civile. È che sappiamo che ci abbiamo. Tu sei dell'8 luglio del 62, caro Baldini. No, di te si può dire che sei un uomo. Certo. Noi cominciamo a leggere se voi avete qualcosa di sottofondo. Tutte tristi, ce l'ho tutte tristi, ha detto. Fa niente, mettene una triste, dai, mettene una triste. Allora, signori, rivestire con carta pergamena il fondo di uno stampo di 24 centimetri di diametro, mettere da parte lo sciroppo della scatola d'ananas su scivolato, aggiungervi un bicchiere d'acqua e 50 grammi di zucchero. Riscaldate sul fondo dello stampo. Poco, decorare con ciliegie, non saltare l'anello, riscaldare un poco, aggiungere il... disporre le fette d'ananas sul fondo dello stampo, decorare con ciliegine e pezzettine di cedro, foderare i lati dello stampo con i savoiardi tagliati a metà e imbevuti di sciroppo, mettere uno strato di savoiardi anche sulle fette d'ananas e per preparare la crema chantilly... Continuala come ciao. Aggiungere lo zucchero a velo, battendo la frusta brutto porco, aggiungere alla crema uno strato di ananas e poi mettere poco un poco di zucchero in più, versare nello stampo piano, che sennò fai male. E attenzione, sempre una ricetta a base vegetariano, anche perché finisce in ano, è sempre meglio. E poi premere bene, premere, spingere tanto e lasciare in frigorifero, perché poi si fredda. Brutto bastardo. Bastardo. Dai, è bellissimo. Dai, okay. Dai, ma l'ironia è fondamentale, l'autoironia è fondamentale. L'autoironia. Lo dovrei usare la prossima volta con me. No, è bello. Con te cerco sempre di essere il tuo esecutore. D'altra parte, era tanto tempo che me l'avevi annunciata questa cosa, minacciata. È come la visita a 50 anni dall'urologo, insomma, prima o poi toccava. Senti un po', Oreste, complimenti. Una domanda: quando doppiavi Sanpei, ecco, vedi, io non so chi sia. Non ti sembrava strano che pescasse trote di 2 metri e 30 centimetri d'acqua, sì, dice Nicola. Un dubbio ho avuto. Chi è Sanpei? Sanpei è cartone che l'hanno rimandato 65.000 volte, il giapponese, il pescatore Sanpei. Ah, il pescatore Sanpei. Ma non ho cominciato a scolpire pesci per Sanpei. No. Ti prego. Possiamo dire che non è per questo. Ti prego. Beh, caro Oreste, da quando hai doppiato il cinese Notte dei Leoni, John Cusack non è più credibile. T'hanno tolto John Cusack. Ma sai, la bellezza di questo mestiere è che tu riesci ad andare da una parte all'altra con grande serenità. Non è che poi quando doppi... ci dormo comunque. 2012, sì. No, ma non so cose cattive hanno scritto. Ma è tanto che non mi scrivono una cosa cattiva. Ah sì, ma mo arriva, non la evocare. No, ma ci sta, la diciamo prima con Cruciani, non puoi immaginare un plenum di gente che ti conoscono per quello che tu fai, magari quello ti ha visto solo al Costanzo Show, quell'altro ti ha visto solo con la premiata ditta, quell'altro ha visto due puntate che hai fatto chissà dove, per cui è ovvio che devi convincere un po' tutti, anche all'inizio radiofonico. Per la gente, per qualcuno, diciamo, perché non sapendo che magari uno con la radio ci ha vissuto da una vita, per cui è giusto che ci sia. Io la dico sempre, ogni puntata, quella più cattiva di tutte, ma se qualcuno la supera io la dirò, ma quella più cattiva è stata proprio, credo, la seconda, la prima addirittura, come startup nella prima puntata. Pino, finalmente Pino Insegno fa un programma radiofonico la domenica, così io posso pulire casa, visto che l'aspirapolvere c'ha la stessa voce tua. No, bella, io la dico bella, ogni puntata, sì, no, momento delle similitudini. Quelle gratuite che mandano così, tanto, vabbè, quella, no, quella l'ha pensata e l'ha costruita. Questa è costruita, cioè, va, insomma, va premiato, insomma, va ricordato. Va, cioè, ricordato, non mi ricordo il nome, altrimenti lo gratificherei. Fra un po' poi dovremmo ricominciare anche a fare questo casting di persone profane del mestiere dell'attore, che ha avuto tanta fortuna i primi 2 o 3 mesi della nostra trasmissione, ai quali abbiamo dato la possibilità di partecipare al nostro gran premio finale del doppiaggio. Sono venuti a Roma, sono di qui a leggere oppure in diretta da Milano, gente che faceva tutti i mestieri, che si cimentava, perché ama tantissimo il cinema, si cimentava in monologhi e eccetera. Noi abbiamo dato la possibilità anche a chi magari vuole e sogna davvero fare il mestiere dell'attore, perché poi ripetiamo, il doppiatore non lo puoi fare se non hai in mano la completezza del lavoro dell'attore, insomma, l'impostazione vocale e un'edizione pressoché perfetta. Senti, carissimo, la tua carriera artistica si limita alla recitazione e alla direzione, no? Allora, sei scultore. Tu sei scultore. Io sono scultore, sono tant'è vero che al premio del doppiaggio, io che ho fatto un anno, ho fatto i premi. Esatto, ho fatto il premio speciale, era un pesce. Io ho detto, ma ora non potevo. L'idea era un'idea un'altra. No, no, troviamo. Io avevo avuto un'idea abbastanza carina, mi sembrava, cioè, un microfono trapassato da pesci. E questa cosa tu hai detto. Ho detto io. Che cazzo hai portato qua? Esatto. In realtà mi piaceva questo fatto. Il cinema in muto, senza la voce, cioè, c'era un modo. Chi è Sapei? Sapei, no, scusa. No, vabbè. Vabbè, ecco. Sono soddisfazioni anche queste. Come vedi, niente, adesso abbiamo. Mi piace che se ti muovi, però dilla così poi la regista la rimettiamo. Personalizza. Quella per cantare. Mi piace che ti muovi, piace che ti muovi, piace che ti muovi, Pino. È meglio che se te ne vai. Muovi e fatti una cosa, insomma. Vai. Mi piace se ti muovi, mi piace se ti vai, mi piace se te ne vai. Pino, Pino, Pino. Eccolo là, l'ha registrato per cui. Pino, stai facendo pubblicità di No, no, non faccio quella energia lì, un'altra energia. Ma la tua voce è diversa, come mai? Beh, è diversa perché devi fare. Non stai parlando per Radio Con Calma, devi fare una pubblicità, per cui soprattutto devi declinare la tua voce a seconda di quello che stai pubblicizzando o quello che stai dicendo. Cioè, non è che tutti gli attori uno fa. Già, adesso. Così no quello è. Allora no. Siamo qui tutti insieme, eccetera. E poi dipende da quello che ti chiedono, perché poi dipende anche dal pubblicitario. Esatto. C'è chi te la chiede erbosa, fa l'erbosa. Erbosa. Falla. Che l'erbosa non mi viene. A me una volta me l'hanno chiesto, ma fai erbosa. Come erbosa? Te devi fare una canna. Non lo so, come la fai erbosa? Eccola, perché poi non è che tu gli dici mai che sei buono, tu ce l'hai nel catalogo. Erbosa, eccola. Sì, ti chiedono di fatto delle cose folli. Sì. Poggiati su questo, su quest'altro. No, piace, no. Anche quando ho cominciato a fare della PlayStation, il gioco è solo l'inizio. No, no, il gioco è solo l'inizio. Questa, io non la dico così. Pino, ma tu convinci proprio tutti. Ma in che modo? Anche mio papà Sisto, mia nipote Francesca e la mia amica Arianna sono nati l'8 luglio. Lo vedi? Ah, ma pensa, si sono ricordati. Che vedi quanto sono attenti. Cioè, è pazzesca. Questa è Francesca che. Niente, sta proprio sul pezzo in maniera incredibile. Allora, signori, siamo arrivati quasi alla fine, cioè manca 1 minuto e mezzo ancora insieme. Mai visto che è volato il tempo? Tu sì, che avevi intenzione, ma no, non so che dirti, non mi ricordo nulla. Dai, sì, non voglio venire. Dai, adesso mi hai mandato fratello e digli stai tranquillo. Sì. Lui è peggio di te. Lui è peggio di te. Almeno ride Antonella. Ci si può solo gestire, se può ragionare. Esatto, ma con te, tuo fratello proprio no. Assolutamente no. Che fai adesso? Che succede? Ma teatro tu? Niente, non ce ne frega niente. Dopo il Padrino, cinema, fine. Faccio le scenografie. Ho fatto per tanti anni scenografia con Riccardo Cavallo e adesso purtroppo non c'è più. Ah, grande Riccardo, sì. L'ultima scenografia che ho fatto con lui è stato il Falstaff. Per cui in scena neanche a pensarci, No, adesso qualche cosa, ma vediamo. Succederà. Comunque sto preparando una mostra, la prossima mostra che è alla Galleria 28 a Piazza di Pietra, ma sarà per l'anno prossimo, ed è una mostra molto verticale dove ci sono tutte stele in legno con incastonature in bronzo o mosaici su delle stele alte 2,50 m bifacciali con la tecnica Opus Tessellatum, quella dell'antica. Beh, chi è che non è conosce l'Opus Tessellatum? Io vi prego di scrivere e aiutarmi sull'Opus Tessellatum, che Tessellatum, poi vabbè, che si diversifica da che significa la tessera spaccata a faccia viva e messa a nella faccia viva nella malta, questa cosa. Sì. Sì. Ne parlerei per giorni, ma ringraziando Dio è finito il tempo, Cali. Questa cosa. Per cui finisco. Mi piace se ti muovi, mi piace se ti alzi e me ne vado e via. Te ne vai. Grazie, Pino. Signori, io ringrazio Oreste Baldini, veramente una cara persona, un grande professionista. Vabbè, dove fai questa mostra? L'ha detto Galleria 28, ma l'anno prossimo. Ma l'anno prossimo ne parleremo più avanti. Soprattutto con l'Opus Festellatum. Che Opus Festellatum. Ma fa niente, non è Opus. Che è mosaico, Pino. Mosaico. Vabbè, mosaico. Ho fatto la figura ignorante. Vai. Spero che tu non trovi la strada di casa o ti finisca la benzina tornando. Io ho parcheggiato, l'ho buttata da una parte. Perché esatto. Non la ritrovi. Piazza Indipendenza. Signori, tra pochissimo Voice Anatomy continua ovviamente. Dopo Baldini c'è l'amico Alejandro Baldi. Se puoi rimanere qui con me, puoi. Ok. A tra poco, Voice Anatomy. Mi piace se ti muovi, mi piace se ti vai, mi piace se te ne vai. Pino, Pino, Pino. Voice Anatomy. Bentornati, signori, Voice Anatomy. È rimasto qui come Baldini. E io voglio introdurlo con una canzone bellissima, magari è il titolo del suo primo album, se non sbaglio. Mi piace perché sottintende la persona che è lui. Vai, Valerio. Gli uccelli sciolgono il brusio, con qualche fischio qua e là, e c'è un'orchestra nel mio io, che accorda gli strumenti in fa. La notte disperata e buia, dovrà finire prima o poi, e si apre come un alleluia, screpuscolando su di noi il sole. Ritorna. Eccolo, eccolo il sole. Alejandro Baldi, ci sei, amico mio? Ci sono, Pino. Grazissime di questo pomeriggio. Ma dai, Elmino, tu sai che come posso io ti cerco in tutto quello che faccio, perché è giusto ricordarsi e sottolineare la grande professionalità di grandi come te, che hanno avuto e spero avranno ancora un successo meritatissimo come cantautore e quant'altro. Tu hai esordito alla grande con quel Sanremo. Che anno era quando hai vinto Sanremo? Sanremo Giovani era con Francesca Lotta, se non sbaglio. Poi... Era, sì, 92. 92, parliamo di 14 anni fa, con quella splendida Non Amarmi, che fu subito un colpo di fulmine, sai, succede con quelle canzoni che la gente dice, vabbè, vince. No, è inutile, che scendessero. Tu sentivi che era la canzone che ti avrebbe dato uno startup incredibile, che ti avrebbe dato quella spinta. Sì, della vittoria non potevo essere sicuro, però sentivo comunque dall'applauso in sala che c'era, perché non sempre, anche su canzoni magari che hanno fatto la storia, c'è stato sempre un applauso così consenziente in sala, ma nella nostra sì, ecco. E quindi ho detto, boh, non arriveremo alla vittoria, però qualcosa succederà. Ecco, questo il pubblico, diciamo, me lo diceva. Senti, tu hai cominciato, tu sei toscano, sei un toscano, sì, sì, sì. Dove vivi precisamente in Toscana? Greve in Chianti nella parte fiorentina, insomma, ecco. Certo, bisogna chiarificare poi anche la parte. Vicino a me c'è Oreste Baldini, ciao, un attore e doppiatore straordinario che l'avrei sentito in tantissimi film, sta qui. Ciao Oreste, ciao, piacere. Sta vicino a me. Tu cominci nell'86, nell'87 esce l'album di debutto tuo, realizzato con Maurizio Fabrizio, Raff e il grande Bigazzi, che credo che sia lui che ti ha scoperchiato, non è vero? Sì, mi ha tolto il tetto, come si dice. O perlomeno mi ha fatto avere un tetto più sicuro, ecco. Come è stato il passaggio? Come è stato? Tu Alejandro, non è facile, tu sei nato con questo importante problema, sei non vedente e non è facile. È vero che hai dei colleghi illustri, importanti, che non dico, stavo dicendo grazie a questo problema, perché tante volte una persona si accorge, riesce ad acuire gli altri sensi quando ti manca qualcosa. Noi dovremmo vivere, anche noi che abbiamo tutte queste possibilità, con grande attenzione per tutto quello che abbiamo, ce ne accorgiamo quando non c'è più tempo e ci manca qualcosa. Invece tu, Alejandro, hai cominciato subito cercando di costruirti il mondo a colori prima di tutto. E quando hai cominciato a voler essere un cantautore, a scoprire in te questa cosa, e soprattutto come hanno fatto a scoperchiarti? Beh, diciamo che scoprire di essere un cantautore l'ho scoperto quando, diciamo, ancora facevo il fisioterapista, ecco. Ah, è vero che tu sei un fisioterapista. Io mi interessavo delle cose, allora poi tra l'altro non è che facessi proprio il fisioterapista, in realtà studiavo alla scuola di fisioterapia. Mm-hmm. Allora facevamo le lotte studentesche, insomma c'era un periodo pari al 68, anche se non era il 68, era il 77 comunque, perché tu sei del 59, esatto, come me, di lotta, di rivolte studentesche, e io chiaramente avevo le mie idee, insomma, diciamo che avevamo fatto anche una marachella con i professori, ci identificavamo come in app, che no, diciamo, sì, nuclei armati proletari ciechi. Devi sapere che lui è un grandissimo ironico, ma come tutti i non vedenti, che io conosco personalmente moltissimi, avremo presto qui anche il presidente, perché si parla di voce, per cui non vedente, la voce è la cosa a cui uno riesce a... E comunque, al di là di questo, a me piacevano già allora i vari cantautori che erano sulla cresta dell'onda in quel momento, per Angelo Bertoli, e ho considerato, cioè ho capito Buccini, che era importante avere delle idee, qualsiasi fossero, ma avere delle idee sulle cose, sulla vita, anche sulla politica stessa, insomma, che poi giustamente c'era un professore di lettere che mi sottolineava la differenza fra politica e partitica, no? Sì. E allora su quest'onda ho cominciato a scrivere le prime canzoni. Le prime erano molto molto contestatarie, insomma, ecco, ce l'avevo con gli indiani, parlavo a favore dei cowboy, eccetera eccetera, anche aiutato da un amico. Poi dopo, quando sentì Imagine, allora, ma sempre fermo restando di avere delle idee, cominciai a vedere intorno a me un mondo neutrale, un mondo che non era più politico, ma un mondo fatto di immagini, di sensazioni. E lì cominciai a scrivere le prime canzoni, Alberi, compresa La Nave Vacca. La Nave Vacca è arrivato secondo poi, esatto, l'anno mi ha portato prima, a Sanremo, tramite la conoscenza del grande Giancarlo Bigazzi. Senti, prova a dire adesso soltanto Dimmi perché piangi, cerca di intonarla, vediamo che cosa risponde qualcuno, prova un po'. Dimmi perché piangi di felicità. Vai. E perché non mangi? Ora non mi va. Vai. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene. Ecco, su questa io direi è il massimo. C'è Francesca Lotta per te, ho fatto un po' una carrambata. Perché Francesca, ciao, Vino, è qui. Ciao Francesca, ma te che non la riconosciuta, perché è radiofonica e stiamo per telefono, però Francesca l'ho disturbata stanotte, ho mandato un messaggio a mezzanotte, ho detto: Francesca, non sono uno stalker notturno, sono... infatti ho dubitato, ho detto forse uno stalker, vabbè, vediamo. Beh, se telefonavo a mezzanotte facevo: ciao Francesca, senti, e invece l'ho incastrata e ho detto: ma a parte, poi ti intervisterò anche te, ti fa piacere questo rincontro, so che sarete, ho avuto un topolino che mi ha raccontato all'orecchio che sarete di nuovo insieme in televisione per un Non amarmi dannata, è vero Aleandro? Sì, è vero, venerdì prossimo. Ah, i migliori anni con l'amico, sì. Carlo Conti, che ha subito almeno 9 puntate del mio canto, per cui è pronto a tutto. Con voi sarà una passeggiata straordinaria. Che ridi? C'è Baldini qua e Baldi di là, capito? Vabbè. Stai in mezzo. Ciao, è ben servito. Ciao. Senti Baldini, tu canti? No. Ecco, sta zitto allora. Lui canta solo "Mi piace se ti muovi", capito? Vabbè. E con grossa fatica però. Senti Aleandro, che cosa combini? Mi vuoi uscire da quella casa, riprendere Francesca per mano e trovare un nuovo duetto, per favore? Wow, sarebbe bellissimo. Ma diciamo che sarebbe molto bello, però sai, io ho sempre detto che, ma però come no, tra un po' di anni ho sempre detto comunque che io, che uno deve poi cambiare, deve fare altre cose. Ma cosa? Però magari dopo tante altre dai. Cose, come no, ma lo scusa, potremmo rifare. Guarda, andiamo un attimo in pubblicità e ti faccio sentire, per esempio, Non amarmi di un'altra parte del mondo, e poi andiamo in pubblicità e torniamo insieme fra un minuto, fra poco. Non facciamo il tempo. Ma fra quanto torniamo in diretta? Ah, allora torniamo fra 10 minuti adesso. Francesca, siate pazienti, 10 minuti, perché c'è il TG, non c'è la pubblicità. Problema. E va bene, vi do un bacio e ci sentiamo fra 10 minuti, sempre con Francesca Lotta e l'amico. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno. Lo so, qualcuno scrive che strazio, la pubblicità rovina, disturba la bella atmosfera. Lo so, però serve, insomma, si vive di questo. E allora, sempre al telefono con noi in diretta l'amico Aleandro Baldi e l'amica dolcissima, grazie a Francesca Alotta per questo duetto nuovo che fa una piccola anteprima su quello che rivedremo in televisione con molto piacere. Siamo lasciati raccontando il grandissimo successo internazionale di Non amarmi. Aleandro, ti faccio sentire questa bellissima donna che l'ha portato al successo internazionale, che si chiama Jennifer Lopez. Senti un po', va, se ti piace. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. Di por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Loco te está rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que... Beh, ¿cómo es, Aleandro? Molto bella, molto emozionante, una bella lingua, lo spagnolo, sì, è molto vicino, quindi veramente ha una bella emozione, insomma, ecco, sentirla in questa lingua è proprio come sentirla nel mondo. Senti, invece Francesca, insomma, sei stata doppiata da Jennifer Lopez, tu sei soddisfatta, scusa se poco. Scusa. Adesso una donna che a posteriori vale molto, insomma. Sì, a posteriori no. Sì. Non so chi era la voce maschile, questo è un mio difetto. Mark Anthony, bravo Mark Anthony. Anche tu sei stato doppiato da un bellissimo ragazzo, dai Aleandro. No, proprio che bello, magari insomma è molto famoso in tutto il mondo. Leandro è più bello, scusa. Senti Alea, dopo questa dichiarazione d'amore, cioè tu non riesci a scrivere un altro duetto straordinario? Ci riesci, perché ne hai fatte le canzoni per altri. Riesco, ma capito, ma non è il fatto di riuscire a scrivere, a parte che, come si dice, in Italia si fanno i duetti così per convenzione televisiva e non per per una certa amicizia, ma poi certo che si può scrivere, però è bello anche fare anche esperienze, insomma, altri tipi di esperienze. Forse sarebbe bello ritrovarsi oggi con le esperienze di entrambi. Esatto, di siete entrambi, cresciuti, no? Tantissimo. Cioè, con la maturità di oggi, quello sarebbe bellissimo. Comunque... Tu Francesca cosa stai facendo in questo momento? Io sto facendo un nuovo disco, tra l'altro anche Aleandro ha cantato una nuova versione di Non amarmi, molto particolare. Ah. È un disco tutto in acustico, quindi solo strumenti veri. Unplugged. E ci saranno musicisti straordinari. Quando come, esce Francesca il Massimo disco? Massimo Moriconi, no? Il basso. Sì. Marcone. Sì. Quando esce il disco Francesca? Se tutto va bene, per giugno. E allora verrai ospite qui a Voice Anatomy, visto che lui sta in quel della Toscana, ma viene spesso, quando viene chiamato Aleandro risponde sempre presente, ma tu sei più vicino, sei nei dintorni di Roma, per cui verrai qui molto, a Voice Anatomy, volentieri. Visto che si parla di voce, non puoi... Assolutamente, guarda, una bellissima cosa, la voce è proprio l'anima che si manifesta, quindi... È l'elemento, come diciamo sempre, di comunicazione più importante fantastico, al mondo, sei fantastico, d'accordo amico è mio? Aleandro, sei d'accordo che la voce in tutte le sue forme è quella che ti fa conoscere? Tu riesci a capire una persona... A delinearla con la programmazione neurolinguistica o ti affidi anche ad altre sensazioni, Aleandro? No, vabbè, mi affido alla voce, perché ma anche alla mano, perché magari certo. Non sempre si può dare la mano, è vero, perché a volte dare la mano è anche una questione di invadenza, può essere, mentre la voce non è mai invadente, quindi la voce è l'elemento con il quale... insomma sento una persona. Assolutamente sì. Francesca, dimmi, stavi no, per dire una cosa. Mi sono ricordata di un aneddoto con Aleandro, no? Che appunto per conoscermi, no? Con le mani, un giorno mi stava sentendo il viso, no? Mm-hmm. Fa: "Ah, ma sembra un uovo di Pasqua, ti ricordi Ale?" Sembra un uovo di Pasqua. ha detto che tu gli hai detto, toccando il viso per scoprire un po' i lineamenti, la forma, ha detto: "Sembri un uovo di Pasqua", gli hai detto. Aleandro, non ti puoi presentare così a una donna, una bella donna, sembri un uovo di Pasqua. Così non dai possibilità alla vita di stupirti. Sembri Io pensavo fosse un bel complimento. No, vabbè, ma ci siamo divertiti, guarda, dire, ma è comunque una bella cosa, al di là però che piaccia, non piaccia. Sì, sì. No. Insomma. Non so che cosa hai pensato di me toccando la mia faccia, Aleandro. Io sembro una mela cotogna, questo posso dirtelo tranquillamente. Se mi levi il pizzetto, eccetera, se ho sempre la faccia rubiconda, sono più magro. Anche la mela cotogna sono delle belle cose, insomma. Ecco, grazie, Aleandro. Tutti penso che abbiamo qualche cosa a che fare con la natura, insomma. Ecco, quindi noi siamo tutti belli, la natura è bella. Oh, vedi, lui è sempre stato un gran positivo, io lo apprezzo, lo ammiro, veramente, lo adoro, veramente. Perché Aleandro ha sempre avuto, intanto è un grande ironia, io sì. Mi sono fatto delle risate con Aleandro, sì. Soprattutto l'altro anno lì in quelle puntate di Domenica Inn, ci siamo fatti un po' compagnia e devo dire, mettendomi vicino a lui quelle mezz'orette da chiacchierare, è sempre stato una persona straordinaria, alla quale ho sempre voluto bene e sono stato molto contento di averlo cercato e di averlo conosciuto tanti anni fa e spero veramente di condividere con lui altri momenti. Senti Francesca, io ti saluto, rimango con Aleandro, ti ringrazio di questa bellissima presenza e ormai ho il tuo numero, ti disturberò a luna di notte appena posso. Magari un po' prima, magari. Sì, vabbè, moglie permettendo. Tanto sai, mio figlio non dorme, per cui ti chiamo a qualsiasi ora. E verrai qui sicuramente a presentare il tuo nuovo disco. Ok, grazie. Grazie Francesca, un bacio enorme da parte anche di Aleandro, immagino ti sente poco. Ma Aleandro saluta Francesca. Sì, senz'altro. Che Pasqua l'abbiamo superata, però salutala ugualmente, dai. Va bene, Francesca, un bacio, grazie. Aleandro, invece rimango con te ancora un minuto per questo blocco e poi altri 10 minuti per quello dopo. Va bene, vero? Perfetto. Possiamo rimanere insieme. Io sono affezionato alle tue canzoni. Ci fu quella canzone meravigliosa e tu hai scritto, l'hai fatta cantare prima a Fausto Leali, perché, vero? E poi l'hai cantata tu? Sì, molto sì, diciamo Sanremo l'ha cantata lui. E ecco, poi tu l'hai messa sul Sole. Nel disco. Ne sentiamo un pezzettino di Perché? Cioè, grazie Valerio, un benissimo. Attimo. La sentiamo. L'anno nuovo per magia deponeva regali, la tristezza, l'allegria ed i giorni normali. L'anno vecchio stava lì, mento in mezzo alle mani, come chi ha finito ormai i domani e non sa perché, perché, perché, perché. Nella luminosità di un trascorso Natale, con il vento che da nord dava un freddo glaciale, l'anno nuovo si girò e colpì di pugnale l'anno vecchio che morì senza avere alcun male. L'anno nuovo scese giù in un mondo di festa. Che meraviglia è questa canzone? Che meraviglia è, Aleandro? Mi dispiace non farla sentire tutta, ma è fantastica. Ma la cosa bella delle tue canzoni è che veramente possono essere interpretate. Pensavo prima a Marco Masini, pensa. La tua dolcezza, ma le tue canzoni possono essere cantate da una bella vociaccia graffiante, eh? Ma sì, ma sai, anch'io diciamo che ho la voce un po' graffiante anch'io, ecco, anche sì, se sì, non ho graffiante diciamo come lui, però devo dargli atto perché da quando l'ho sentito ho imparato anch'io a fare la a voce graffiare. Rauca, ecco, quindi sì. Comunque devo dargli atto perché ha inventato un'espressione, insomma. Assolutamente, ecco, questa, sì. Questa voce, diciamo, con delle accentuazioni blues, insomma, sì. Ecco, devo fare un complimento a Marco, ecco. Bene, se rimani, voglio, rimani no, con noi, devi, sì, assolutamente, un caro amico anche lui. A tra pochissimo, resta con noi Aleandro per un altri 10 minuti insieme, a tra pochissimo, Voice Anatomy. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta... Voice Anatomy. Di nuovo Voice Anatomy, bentornati signori, sono con Aleandro Baldi ancora per una decina di minuti. Io lo ringrazio sempre della sua bellissima e dolcissima disponibilità. Senti Aleandro, oltre ad essere un grandissimo artista, lo sappiamo che vivi la tua condizione con un approccio alla vita non competitivo, ma qualitativo. Questo ti fa veramente molto onore. Ma mi puoi spiegare meglio cosa intendi con questo concetto? Ma è chiaramente... Con questo concetto intendo il fatto di vivere una vita fatta di rapporti umani, di rapporti, diciamo, per me belli, ecco, e non è una gara, fare insomma. Le cose per essere meglio di un altro, per essere il massimo di quello che si intende, anche perché ogni graduatoria poi è fatta dall'uomo ed è discutibile, insomma, quindi competizione no, ecco, anche se diciamo che da bambino un certo spirito competitivo lo avevo, insomma, ecco. Ma quello deve rimanere sempre. Può anche essere utile in un certo modo lo spirito competitivo, perché ti può portare a fare una cosa bene nella vita, nel mestiere, nelle professioni, però poi sei tu che vai avanti, sei tu con la tua anima che è importante che vada avanti, insomma. Sì, l'importante è che il successo di uno non sia l'insuccesso di un altro, ecco, quello significa non essere competitivi negativi. Competitivi bisogna essere, insomma, ambiziosi, sempre un grado in più di umiltà, ma sicuramente l'ambizione e la competitività serve per fare il meglio, come hai raccontato tu. Senti, quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato nella tua carriera a causa della tua condizione e soprattutto come le hai superate, se ci sono state? Ma sai, io grandi difficoltà, diciamo, non le ho incontrate, se non in un periodo in cui magari non eri in forma di salute, ma a prescindere dalla condizione di disabile. Sono periodi che possono capitare a tutti. Questo è stato un periodo in cui ho incontrato delle difficoltà, ma per quanto riguarda così la cecità, di difficoltà non ne ho trovate, se non le difficoltà che mi imputavano gli altri, nel senso, quando mi dicevano sei triste, sei qua, sei là, ma io, come si dice, non me le vedevo, è la frase giusta, sai, è vero. Quindi diciamo che non ne ho incontrate. Ma questo è bello, questo fa parte sempre del tuo grandissimo ottimismo, e anche perché, ripeto, uno riesce ad acuire gli altri sensi in maniera bellissima, non normale da un certo punto di vista, perché, ripeto, sì, ma poi ho sempre detto che a me non manca niente, perché no. Non ho perso niente, io sono nato come sono nato e come sono nato sono sempre stato, insomma, ecco, le difficoltà, le anche chi perde qualcosa, ecco, sì. Purtroppo. Beh, vedi, questa non deve passare inosservata, questa frase. È bello, nel senso, tu sei nato, non hai perso niente, tu sei nato così e continui ad essere così e stai valutando la tua vita e sta crescendo la tua vita. Per fortuna c'è chi perde durante, certo. Il fisico durante la vecchiaia, ma beh, quello l'abbiamo perso da un po', io e te, dai. Cercando di acquistare, non mai di perdere, ecco. Bello, vedi, tu riesci sempre a stupirmi, sia con l'ironia che con grande profondità e con la tua grande semplicità, Leandro. Poi uno non si fa questi complimenti perché siamo in diretta radiofonica e qualche centinaio di migliaia di persone ci sta ascoltando, è perché io poi te l'ho sempre detto e le ho sempre sentite dalla tua voce, per questo mi piace parlare con te e mi piace che la gente riesca a conoscere Leandro Baldi al di là delle belle canzoni che hai fatto e che farai, insomma. Poi c'è un altro disco liberamente tratto, un altro CD che ha due anime, tu dici. In che senso questo CD ha due anime? Beh, diciamo che c'è un'anima che partiva dall'esperienza di un bel romanzo che era Il viaggio di Gulliver, ecco. Sì. E da lì ho fatto dei pezzi dell'attualità di argomenti che mi suscitava questo tipo di romanzo, ecco, come una donna, parlando delle emozioni che questo mi suscitava, e poi un'altra parte dove aveva l'anima di tutti i giorni, l'anima di una canzone d'amore, come so che ci sei, ecco, come mm-hmm. ricomincio da qui, ecco, quindi per questo c'erano due anime, ecco. C'è nell'aria l'anima ispirata da questo romanzo e l'anima ispirata dalla vita di tutti i giorni, come adesso. Che succederà tra poco nella tua vita, caro Leandro? Continui, chi lo sa? Tu lo devi sapere. Si fanno sempre i soliti propositi. Farò una tournée, magari dopo un po' di anni farò un disco, e queste sono le cose che si dicono. Stai preparando qualcosa? Anche non sapere che cosa succede nella nostra vita, perché le cose si accolgono e spero e penso di accoglierle sempre con questa fiducia e con ironia. Assolutamente, ma prima di lasciarti voglio sentirmi insieme a te e voglio far sentire le persone un'altra canzone che io amo particolarmente del tuo patrimonio discografico, è Ci vuole un attimo, che io amo profondamente. Sentiamola un po' insieme, dai, un minuto. È un letto troppo grande per questo poco amore, noi due che andiamo a fondo in un televisore, eppure eppure fino a ieri parlavamo. E tutti i miei pensieri ti nascondevi con la tua mano ed io dentro gli occhi tuoi mi sentivo un angelo, ma poi ci vuole un attimo per perdersi e non trovarsi più per secoli, sentirsi inutili come fiammiferi in questo fuoco che ti brucia l'anima e non si spegne, sai, lasciandosi. Se adesso te ne vai, io senza te sarò invivibile come una rondine in un'America di solitudine. Con un altro tu saresti mia, perché l'amore è difficile come un miracolo e per riperderlo ci vuole un attimo. Ah, brividi, brividi davvero, Leandro, che bella cosa. Eh sì, sentendo te non posso non ricordarmi il momento in cui l'abbiamo fatta al Teatro Sistina a Roma. È vero, è vero, è vero, è vero. Io ti ho portato dove posso, io a Leandro, mi metterei un Leandro Baldi piccolo in tasca, guarda, me li porterei dietro sempre, ma succederà. Peccato che mi abiti così lontano da casa, cioè da Roma, cioè, anch'io abito lontano da te. Sì, siamo anche siamo se lontani, ma vicini. Siamo sempre vicini, nel sì. Il cuore non ha distanza. Ecco. Non ha confini. E poi ci vedremo anche più là, più spesso, ecco, quando in un momento girerò di più, insomma, ci vedremo. Sì, ci vedremo. Sì. Poi quando penso che il tempo, intanto abbiamo fatto questa bella... bella perché perlomeno ci vedevamo, sì, questa esatto. Bella trasmissione, almeno stavamo insieme. Insieme. Sì, sì. È stata una scusa per stare insieme. Bella, sì. Ecco. E poi dopo, a Dio piacendo, nasceranno altre cose, altre occasioni succederà, per stare insieme. Succederà sicuramente, Leandro. Vorrei almeno fare la pubblicità del tuo nuovo disco, del tuo nuovo CD, almeno quello, il nuovo CD di Leandro Baldi, cioè che ne so, il titolo non ce l'ho ancora, però me lo dirai, insomma. Ma certo, ma figurati, se non lo dico al mio amico Pino, il mio nuovo CD, figurati. Senti, puoi dare qualche consiglio a chi magari si trova in una particolare condizione come la tua e voglia approcciare al mondo della musica? È vero che ci sono degli esempi straordinari, però per un ragazzo che magari sta cercando di farsi spazio e ha magari questo tipo di problema... Cosa gli vuoi dire? Che cosa ti senti di voler dire o poter dire? Ma guarda, io la prima e forse l'unica cosa che mi sento è quella di suggerire di essere se stesso. Mm-hmm. Come dire, ti piace la musica, falla e basta. È la stessa cosa che si dice a qualcuno che non ha problemi, le stesse cose, insomma, mi sembra un po' una domanda un po' banale, fra virgolette, come quando io chiesi quando doppiai un film Belli e Dannati, dove c'era una storia d'amore fra Keanu Reeves e River Phoenix, tantissimi anni fa, e io dissi, devo dire ti amo a River Phoenix, e dissi, come glielo dico a un uomo ti amo? E il direttore di doppiaggio mi ha detto, Pino, come lo diresti alla tua donna ti amo? Nello stesso identico modo. Ed è questa la stessa cosa che dà risposta a questa domanda. Cioè, chiunque si vuole affacciare a una situazione artistica o professionale deve farlo con grande passione, con grande amore, con grande voglia, con grande dedizione e con grande professionalità. Per cui ecco, io il consiglio posso, vale per tutti. Scusami Pino, mi sento solo di suggerire, ma non solo a chi è, diciamo, non vedente, ma a tutti. L'arte in generale, sia che uno canta, che uno scriva, che uno dipinga, che uno faccia, insomma, dell'arte, serve all'inizio per buttare fuori quello che si ha dentro, perché molte volte quello che si ha dentro ci logora e ci fa vedere la vita pesante. Invece avere la possibilità di poterlo esprimere ci rende la vita più leggera, ci rende noi stessi più leggeri. Quindi al di là che poi questa cosa piaccia, non piaccia, faccia successo, non faccia successo, falla. Ma la possibilità di poter esprimere qualcosa è una bella possibilità. E come dicevano a Rocky Horror Picture Show quando uscì il film, non pensarlo, fallo. E allora, amico mio, io ti abbraccio forte e questo abbraccio te lo diamo un po' a tutte, tutte le persone che stanno ascoltando Radio 24 e Voice Anatomy, anche le persone che sono intorno. L'affetto è profondo, la stima è enorme e ci sarà ancora occasione di sentirci. Grazie di avermi regalato un po' del tuo tempo, davvero. Grazie a te, Pino, di avermi regalato questa opportunità. Grazie. Il regalo me l'hai fatto tu e ce l'hai fatto tu. Un abbraccio a te e alla tua grande famiglia, Leandro. Un bacio, grazie. Grazie, Pino, un bacio a te. Grazie. E allora, signori, ci siamo, abbiamo un altro ospite pronto da Milano, una persona qui mi dice mamma il polpettone con la voce di Will Ferrer, da Marco Zaffuto. Allora, 3, 2, 1, ma il polpettone, cazzo! A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Benvenuti signori, Voice Anatomy per l'ultima mezz'ora insieme. Abbiamo un nuovo ospite, ora devo registrare perché non ha registrato Valerio, il sempre per le segreterie telefoniche. Allora dai, la rifaccio Will Ferrell in questo film Due singole a nozze. Pronto? Via. Ma il polpettone! Cazzo! Non mi fa di parolacce. E invece abbiamo un nuovo ospite in diretta da Milano, voglio presentarlo prima io, raccontare la sua storia. Andrea Dellino, in arte Dellino Farmer. Dellino Farmer si definisce un rapper atipico, una voce fuori dal coro, uno stile fuori dai tipici stereotipi rap al quale siamo abituati. La sua musica è caratterizzata dal dialetto bresciano delle pianure fra Crema, Brescia e Mantova. E anche il tema delle sue canzoni si diversifica da quello narrato dai rapper in generale. Infatti per Dellino la musica rap e hip hop non rappresenta la vita dura di periferia, ma contesti più tradizionali, se vogliamo, bucolici. Dellino ora all'attivo 7 dischi, fra demo, EP e mixtape, oltre ad una vasta videografia su YouTube, ed è oggi ancora l'unico rapper a scrivere e rappare in dialetto lombardo. Andrea, ci sei? Ciao Pino. Sono curiosissimo. Ma hai già detto tutto tu, basta, cosa devo dire? Sì, lo so, cioè. Era giusto presentarti, perché magari un nome meno conosciuto, magari conosciuto fra i generi, fra le persone che fanno il tuo genere, esatto. E sicuramente come youtuber, eccetera, sono famosissimi, magari per i più, per le nazional popolare, magari esatto. Meno famoso, per cui ci tenevo a raccontare questo. Voglio sentirmi una cosa, qui abbiamo tanti contributi, così con quale preferisci che cominci? Le strade basse? Io pensavo appunto di iniziare con Le strade basse, che tra l'altro non è una canzone, è proprio un piccolo monologo che tra l'altro ho fatto recitare a un mio caro amico, un attore di teatro, si chiama Francesco Bufoli, e prendo l'occasione anche per salutarlo. Diciamo che è un pezzo introduttivo, poi ne parleremo. Va bene. Sentiamo, lo sentiamo tutto oppure un pezzo? No? Ma dura un minuto e poco minuto, più, cioè, quindi va allora bene. Sì. È uno skit, vai. È uno skit, sì. Mi affascinano molto le strade di campagna. Quelle stradine isolate con una sola corsia, stretta fra due fossi. Quelle strade in cui le segnalazioni vanno sempre un po' interpretate. Dove di tanto in tanto appaiono cartelli di località sconosciute, dai nomi buffi, Longhena, Acqua Fredda, Sospiro, Vaccarolo o Flaga. Le insegne sono spesso arrugginite o ingiallite, o addirittura forate dal piombo di qualche pistolero di passaggio. Quelle strade vuote in cui d'estate, se ci passi in auto, puoi permetterti di procedere anche ai 20 all'ora senza che nessun rompiballe da dietro ti suoni o ti sfanali negli specchietti. Quando si viaggia su queste strade, è bello tenere giù i finestrini e tenere su la radio sul nostro brano preferito. Senti, è bellissimo, poi, è in italiano perfetto. Sì, questo è un italiano. È un'introduzione. Certo, questa è un'introduzione, giusto solo per semplicemente per dire che io, insomma, faccio bio-rap sostanzialmente, bellissimo, almeno quello che l'ho chiamato io. Bio-rap è bellissimo. Bio-rap, è rap a chilometro zero. Ecco, non ci rido per prendere il giro, ci rido perché mi fa piacere che si trovino sempre delle strade nuove per raccontare qualcosa. Ma io credo che la musica, vada riscoperta, vada frammentata, vada rotta e ricostruita sempre più volte. No, ma è bello poi dalla periferia, giustamente, che il rap racconta quello, no? La città, la rabbia. Questo magari racconta anche qui, magari con rabbia, perché io lo conosco non tanto, devo dire, la verità, ma sono stato molto curioso di incontrarti radiofonicamente e parlare un po' di questo. Quando è iniziato la tua attività? Quanti anni hai intanto, Andrea? Scusami. Ma io sono un ragazzino, quest'anno faccio gli anni del nostro caro signore, 33 ad agosto. Come 33 la puntata di oggi, pensa, 33esima oggi e tu 33. Guarda, e oggi è il 24 e siamo su Radio 24, guarda te i numeri, la cabala come entra qua proprio. Bellissimo. E quindi quando hai cominciato? Presto? Immagino. Ma io sì, ho cominciato da ragazzino chiaramente a scrivere, poi ho cominciato un po' più da grandicello, intorno ai 22-23 anni a fare i primi concertini, le prime seratine in cui praticamente scrivevo sempre in italiano e cantavo solo in italiano, poi vi farò sentire qualcosa in dialetto ovviamente. Sì. Anche perché anche gli americani insomma, esatto, dialetto, è lo slang, non è che, è lo slang americano, esatto. Non è che si capisca poi tanto, cioè non è che fanno the dog is in the table, why the dog, non è così the insomma. Dog is in the table è bella esatto. Non stai in the garden, stai in the table on the table. Senti, sì. Di dove sei originario? Sì, Padania. Padania, sì, Padania, sì, sono pura. Tra l'altro ho fatto una canzone, poi lo farò sì, sentire. Welcome to Padania. Welcome to Padania. No, facciamo sentire noi, scusa. Facciamola sentire? Dai, un pochettino, facciamo sentire noi. Vai, va. Sì, va. Bene, oggi interrogazione di geografia. Chiamiamo Bellino. Vieni e spiega ai tuoi compagni cos'è la Padania. Padania, Padania, Padania, Padania, Padania, Padania, Padania, Padania, Padania, Padania. Porto la maschise, son mio come l'estado. Me vengo dalla base, so cristiano se la strada. Meno non conta di ma di zio de studia. Però quanto design, ghiere bere malastaso. Artigianale me, dalla storia appena strano. 100% by Repubblica Padana. Dalla bassa alla val, una favola mondana. La carità se ne pregna ma l'economia rencana. Oi che tu, che mi ha bisogno di niente. A parte chi, che mai ha fuori l'appartamento. Fra sale, slottamento e centri commerciali. Welcome to Padania, la terra dei affari. Non c'è per mai quel che vengono in Padania, perché che la capa sotto per la montagna, perché col cemento in mamma è alla campagna, perché le fa per dire le belle acqua della fogna. Beh, Dellino è fighissimo. Qua ci sarebbe da aprire una discussione. È sudamericano, è sudamericano. È sudamericano. Non è bresciano. È brasiliano. Eh sì, no, ma è tutto in Sud America. Io sto cercando un pezzo dei Cypress Hill, ah, okay. Che è un gruppo. Sì. Certo, i Cypress Hill, certo, sì, la collina Cypress, dei cipressi. Certo. Esatto, sì. Che sono fortissimi. C'è un pezzo tequila. La parlata all'inizio mi sembrava veramente messicano. Bellissimo, ma musicale da morire, più dell'italiano. È molto musicale, è lo slang, per questo. E poi che sono parole contratte per cui entrano meglio all'interno. Ma sì, i suoni generalmente del dialetto lombardo, del dialetto, cioè che poi dialetto, lingua, sennò poi i linguisti lingua, mi ammazzano lingua, quando esco di qua. Sei pazzo. Sì. Arriva Salvini, mi fa chiudere la radio, che no, ne no, sai? Ma non Salvini, molti altri che sono molto più incazzati. quindi quello è il rischio. No, però insomma, c'ha suoni solitamente molto più crudi, molto più duri, anche molto sì. Più legati alla terra, alle cose da fare sostanzialmente. È difficile trovare delle parole che parlino di anima, di spirito, di emozioni nel dialetto, nella lingua lombarda, perché è principalmente una lingua appunto che ha a che vedere proprio con gli oggetti, con il lavoro, no? Con la pratica, è solida, esatto. È tridimensionale la lingua. Esatto, sì, si è molto pratica come lingua, è molto pratica, pragmatica. Per cui si avvicina molto di più, se vuoi, il rap americano, lo slang americano, più questa che la rabbia periferica. È molto vicino allo slang americano e questo è molto vero, perché a me capita, chiaramente faccio seratine, concerti in giro. Serate. E come sì. Che spettacolino fai? Che recita fai? No, io faccio uno spettacolo, non faccio recite. Faccio spettacolo, Dellino, dillo. E di solito mi muovo in chiaramente provincia di Brescia e dintorni, quindi Lago di Garda, Lago di Iseo, dove c'è pieno di olandesi, tedeschi, eccetera, e mi comprano il CD perché sicuro. Gli piace questa cosa. Ma noi pure compriamo il CD americano non capendo una parola. Appunto, esatto, cioè, è questo. Sì, è il suono che ti accompagna, esatto. È la grinta con la quale tu canti e racconti queste canzoni. Chi ti ha ispirato nella tua... come sei stato l'innovatore? Hai aperto tu? Cioè, sì, mondo. Qua sì, qua in Lombardia sicuramente sì, perché non c'è nessun altro che si è sporcato le mani con sta cosa. No, non è sporcato le mani, dai, è un eufemismo. Ma sì, certo. No, l'ho scoperto facendo un viaggio al sud. Io facendo un viaggio al sud ho scoperto che in Salento, in Campania, nel Napoletano, in Sicilia, sono molto legati al loro territorio, alla loro lingua. Sì. E ho visto che al nord questa cosa mancava una musica giovane per i giovani con l'invernacolo, come si suol dire. È vero, hai detto una cosa giustissima, perché è vero, il sud è molto legato alle proprie origini e racconta come il napoletano, siciliano. Abbiamo visto anche recentemente, insomma, Sanremo, giovani fare rap in napoletano. Certo. E quindi, insomma, al nord questa cosa, insomma, manca, perché ci stai sempre a lavorare. Sto sempre a lavorare, è sempre... vedo che però qualcosa conosce anche qualche... No, chiedo scusa, no, è terribile come quando uno non è romano e fa mall'immortacci ed eccetera. No, sempre con grande rispetto. Quando uno fa il, come al cinema, si usa per convenzione il catanese quando si fa l'italo americano, esatto, siciliano, mafiosi, fa il barese della Puglia per raccontare pugliese, sì, e sì, si che fa poi il milanese per escono raccontare dei creoli strani. Esatto. Poi tra l'altro io avevo una domanda da farti, Pino, il napoletano è una calata, sì, o è un dialetto? Non ho ancora capito sta cosa io. No, io credo che sia anche quello un dialetto, se non una lingua. Sono sicuro di questo, nel senso che è musicale, fa vita a sé, fa proprio la calata è quella romana, ecco, più che la parlata romana non è un dialetto, quello televisivo, non è una lingua, insomma. Tu la capisci sempre, se tu mi parli stretto in padano non capisci, in Crema o a Bergamo, a Cremona o eccetera, io non lo capisco, capisco i suoni, qualcosa prendo, certo. Il romano comunque uno può fare eccetera, se sentiamo domani, è strascicato, infatti, è per quello che è solo strascicato. Il napoletano invece anche loro, se anche lì poi si diversifica, se vai a Salerno, se vai a Napoli, se vai a Benevento, insomma, come ti sposti anche lì la musica cambia. Anche lì il napoletano è preso ad esempio, ma anche lì se uno parla napoletano cercando di farsi capire, ehi, allora ci sentiamo stasera, va bene, allora lo senti e lo capisci, ma se stringe e picchia anche lì si perde. Quando intervisto qualcuno al telegiornale di Napoli mettono i sottotitoli, quindi ma è difficile, insomma, quando uno, ecco, dell'entrotea dell'Inter Interland, anche lombardo, è ovvio, è difficile, però uno deve salvaguardarle, queste sono lingue da salvaguardare, studiando anche l'italiano, se tu fai un mestiere che devi raccontare qualcosa a qualcun altro, sei un professore eccetera, salvare il dialetto e la lingua, ma è giusto poi farsi capire nella lingua nostra, insomma, nell'italiano. Senti, prima di andare in pubblicità, ce ne sentiamo un altro pezzo. Ma guarda, io volevo proporre, visto che abbiamo parlato tanto di dialetti eccetera, come i panda, questa è una canzone che ho scritto, che appunto, che purtroppo siamo gente in via d'estinzione, come i panda. Vero, appunto. Come i panda, vai! Ando che bressole grando. Ma scusa? Ando che bressole grando. Mi ha capito. Ando che bressole grando. Ma anche senso. Ando che bressole grando, le grando. Ando che bressole grando, anche se ti redri me gola pena che spando. Mi dice che anche pensi ma fumi propagando. E se parli di adesso ne sti su come i panda. Ando che bressole grando, ogni risposto laga dentro un altro domando. Me resto il fiero sono i malassoppando. E se parli di adesso ne sti su come i panda. Oh, che messo mio to fratel, che chi suono la campana, che chi suono il campanello. Lumi ti tampe la bando, il gruppetto, il complesso. Aro mio Vasco Rossi, però che po' de best, dai. Se de brai, fu mio sofisticac. A me ma caga male, la raggiù la gava i match. Parla in brescia, la lingua lombardo. Vel mio di che avevo un giro con de scudo e l'alabardo. Siamo a voi sanato, mi bisogna studiare le voci in tutte le sue declinazioni. Qui mi arrivano dei messaggi bellissimi. Ma che canzone simpatica, Welcome to Madania. Capisco il dialetto, un altro. Nel dialetto del mio papà, mantovano, per dire 100.000 lire dicevano 100.000 francs. 100.000 francs, Scusa, chiedo scusa. No, ma va bene, ci sta. Devo fare un coach, mi devi fare da coach. Senti, Andrea, rimani con noi ancora al prossimo blocco, noi andiamo un attimo in pubblicità. Voi sanato, mi restate con noi. Voice Anatomy, Bentornati signori, abbiamo in diretta da Milano, dagli studi di Radio 24, Dellino Andrea, in arte Dellino Farmer, questo bio rapper. Ci stiamo divertendo a scoprire un mondo diverso, almeno ancora inesplorato. Senti, non rischi di restare un po' fuori dalle logiche commerciali così? Eh certo, sono fuori dalle logiche commerciali, ma voglio rimanere fuori dalle logiche. Ah, ecco, no, okay. No, vabbè, dai, comunque, guarda, è un interrogativo che mi sono posto onestamente raramente, nel senso che alla fine io vedo che quello che faccio piace molto a chi lo sa apprezzare, mm-hmm. e a chi insomma si sente parte di questa ricerca, anche di questa riscoperta, perché poi è un po' come andare in soffitta e aprire un baule in polverato dove si trovano dentro un po' tutte le nostre radici quando si comincia a lavorare col dialetto e con la lingua locale, si scoprono tante cose, quindi questo sicuramente è l'importante, questo mi fa piacere sicuramente. Sì, c'è anche una ricerca filologica importante della lingua, sì. A questo punto, perché ci sono dei posti che hanno proprio un vocabolario della lingua, c'è per esempio vicino a Roma Cori, che è un piccolo, sì, centro dove c'è proprio un libro con tutto il dialetto, tutto il vocabolario della storia, ma non solo, proprio le parole, lo studio di quella parola e di quella lingua. Ah, sì, e siamo, sì, a 60 chilometri da Roma, eh? Sì, sì. Beh, non io, è che siamo così lontani. Io, per dirti, c'ho un libricino qua davanti a me che si chiama Il dolce parlar badante, come parla i noni, cioè praticamente questo qua, Pino, è un, sì, libretto che hanno fatto per insegnare alle badanti a badare i noni, perché siccome che i noni parlano solo in dialetto, loro, certo, non le capiscono e quindi hanno un vocabolario dove c'è scritto tutte le parole. Bellissimo. E ho scoperto anche io delle parole che dimmene onestamente... qualcuna, ma Andrea. Sì, tipo materasso si chiama stremas. Perché sei stremato quando ci vai, sei là sopra, stremato, sei stremato, esatto. Forse è da quello, può darsi. Poi il melograno, pongranat ad esempio. Pongranat perché pom è la mela, no? Pom è la mela, esatto. Però vedi, c'è una, ma sì c'è una importante, c'è uno studio vero. Però per dirti, merluzzo si chiama Bertagny, cioè, Bertagny non ci sarei mai arrivato, ma neanche io probabilmente, non lo so. No. Il macellaio, il becher, il mestolo, il becher, forse è il becchino degli animali. È il becher, sì, becchino. Non lo so, esatto. Adesso sto veramente navigando a vista nel mondo delle parole. Sì, però comunque è bello perché c'è una grande scoperta, c'è, insomma, delle volte basta veramente guardare fuori dalla propria finestra per imparare mille cose. Insomma. Ma è quello, io devo dire che sembro un vecchio romantico e rimani sempre attaccato al passato. Non è così, perché noi siamo quello che siamo stati, quello che sono stati gli altri, quello che ci hanno tramandato. Ed è brutto parlare con un ragazzo di 20 anni e dirgli: hai visto il film Nino Manfredi? E lui dice: chi è? O Tognazzi, o Bicevalori, o Paolo Panelli, eccetera. Non voglio arrivare a Gasman né a Sordi, perché mi auguro insomma che ci arrivino anche loro. Però la colpa, sì, è proprio di chi dovrebbe cercare di ricordare e ricordarci da dove veniamo. Dal punto di vista artistico lo sto analizzando, ma da tutti i punti di vista, anche quello, sì, politico, anche sicuramente quello sociale, poi scientifico, per carità, viviamo, non bisogna anche dimenticare, no, viviamo anche in periodi insomma dove c'è una saturazione di informazioni bestiale, voglio dire, nel senso che ci arrivano, tutti fanno tutto e tanti lo fanno anche bene magari, però insomma sì, fatica... ma te li perdi, però te li perdi in questa giungla, sì, prima no, sì, prima rimaneva perché c'eri magari un cantante, investivi sulla sua vita interamente, magari vedevi un giovane diciottenne, sedicenne, sì, come Massimo Ranieri, e te lo sei portato fino a oggi, insomma, cioè, sì, assolutamente, adesso vedi, sì, a Ti lascio una canzone, un ragazzino che canta bene, te lo perdi dopo 6 mesi perché ha perso. Beh, prima compravi un CD, insomma, mettevi un da parte disco, i soldi per comprarteli, esatto, o 33 giri, sì, 45, sì, e te lo ascoltavi fino alla fine, insomma, l'avevi. Adesso invece, insomma, vai su YouTube, lo scopri, ti piace una settimana e poi non lo... Sì, poi di queste cose se ne potrebbe parlare veramente a lungo, se la globalizzazione ha aiutato oppure no, oppure sì, in certi casi no, insomma, vabbè, si aprirebbe una tavola rotonda che esula da voi, Sanatomi. Esatto. Senti, e poi hai collaborato, sì, con anche col Piotta, leggo, sì, con Omar, sì, Pedrini, sì, Herman, sì, Medrano, sì, insomma. Sì, è tutta gente che ho conosciuto, con la quale ho avuto modo di collaborare. Il Piotta mi ha pubblicato un paio di canzoni per il la... Piotta, il Piotta è un personaggio, è il romano verace, insomma. Sì, sì, quello vero. Senti, con chi sogni di collaborare adesso? O ma continui da a me piacerebbe collaborare con qualcuno del sud, con qualche... non è male, è una fusione così. Sarebbe bello davvero riuscire, sì, a fare qualcosa, ad esempio con Clementino, ad esempio, che l'avevo scoperto ancora nel 2000. 2006 a In Salento, appunto, che lui già faceva, pubblicava dischi. Ma insomma, guarda che i featuring negli stadi, nell'America e nelle altre parti, sono la cosa più innovativa e più importante. Ognuno aiuta l'altro, ci sono i dischi che magari leggi Jay-Z, ma dentro ci sta featuring, sì, con questo, sì, quello, sì, e quella. Si, sì, potrebbe, sì, fare, anche perché il refrain è in padano. Potrebbe essere divertente la canzone, il, sì, rap primario, sì, napoletano, e il refrain melodico nella tua lingua. Sarebbe, sì, bellissimo. Anche Rocco Hunt mi piace tantissimo. Rocco Hunt, sì, bravo, anche lui molto interessante, davvero. Io, mi piacerebbe poi averli, queste persone, quanto prima a Voice Anatomy. Senti, insomma, sei pronto a fare il grande salto o vuoi rimanere lì? Che devi fare? Ma... che vuoi fare da grande, insomma? Ma guarda, sarebbe bello, insomma. Cosa voglio fare da grande? Sicuramente continuare a fare quello che mi piace, e questo mi piace farlo, questo sicuramente. Nel senso, io, insomma, la musica la vedo un continuo laboratorio, per me è una scoperta continua, nel senso che anche dal punto di vista proprio della composizione, oltre che della ricerca linguistica, eccetera. Adesso ti so dire che sicuramente voglio andare avanti a fare questo. Poi, boh, non lo so, ci sentiremo tra 10 anni, boh, chi lo mi sa. Mi dicono, potresti dire, Pino, che il napoletano non è né glada né un dialetto, ma una lingua, l'abbiamo detto, una, sì, lingua patrimonio dell'UNESCO, no, l'abbiamo detto, una, sì, lingua, sì, l'abbiamo chiesto insieme, proprio, ci siamo arrivati insieme a tutto questo, tranquilli. Sì, guarda, difendiamo. Che quando si vanno su quegli discorsi qua, attento, perché veramente c'è della gente che Dellino si incazza. Un grande bresciano, tenere alta la nostra storia, non dimenticare le nostre origini, lui ne è l'emblema, un saluto Matteo. E sacco, Andrea, la tua musica è allegra, originale, simpatica, una bella voce, un accento fantastico, sei originale, eccetera, eccetera. Andrea, grazie di questa passeggiata insieme a te, avremo modo di risentirci sicuramente più avanti. Mi andava di conoscerti e di farti conoscere al grande pubblico di Radio 24, mi sembra una cosa molto interessante, divertente e anche intellettualmente giusta. E allora grazie Andrea, grazie a voi. Davvero, un abbraccio forte. Grazie, un abbraccio. Dimmelo però, dimmelo in dialetto, bro. Ciao. Allora, va salute, sirchide fa bel, dai che le bello, grande Pino. Bello, ho capito solo grande Pino. Va bene. Grazie. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Salutando Andrea, mi collego con i nostri amici del calcio per avere la prima brutta notizia, che io ce l'ho tanto in diretta dall'amico Valerio. Eccomi. Eccoti. Che brutta notizia vuoi avere? Ha appena segnato il Sassuolo contro il Toro. 3-1, era questo che intendevi, no? Questa qui, esatto, 3-1 del Sassuolo. Sassuolo che è settimo in classifica, un punto sotto il Milan, che però gioca domani contro il Verona, e un paio di punti sopra la Lazio. Che invece è sotto 2-1 a Marassi contro, sì, la Samp. E so anche che si è mangiato un rigore che Andrea, sì, me l'ha detto, sì, Valerio. Sì, siamo nel quarto minuto di recupero, però non è ancora finita. Sì, ci sono, vabbè, potrei che fanno il terzo, 20, certo, secondi, 20 secondi, certo, del tempo di recupero. La tua ironia è fortissima. Allora, se vuoi te la racconto. Giorgevic, no, dopo 3 minuti, ma colpo di testa, dominio assoluto. Poi al 20° pareggio di Fernando. Poi all'ultimo minuto del primo tempo Viviano che ha parato un calcio di rigore di Candreva. Parato, si fa per dire, insomma, è stata una sorta di passaggio di Candreva. E poi poco dopo la mezz'ora del secondo tempo c'è un gol che ti invito a rivedere. Rizzoli l'ha segnato con la goal line technology, era dentro di un metro, eh? Adesso togliamo ogni dubbio. Però è Diachité, se non sbaglio, no? Ma non lo so, guarda, ancora oggi ci sono dei dubbi su chi abbia segnato, perché erano una dozzina presenti sulla linea di porta, quindi in qualche modo la palla è entrata, di sicuro non c'è stato un tocco di braccio come chiedevano i giocatori della Lazio, certo. Su questo possiamo sgomberare il campo dai dubbi, però Diachité bella vendetta anche lui. Tipo le regie di Frank Capra questo campionato. Totti che fa questa meraviglia, io sono diventato un tottiano d'onore, perché veramente io sono affezionato ai film, al cinema, e a me è sembrato veramente un film i due gol di Francesco Totti, che vanno a sublimare veramente una carriera straordinaria. Io mi toglierei la maglietta e gli dico: beh, grazie, arrivederci. Non puoi fare di meglio, non può succedere di meglio. Sei d'accordo? Ma io invece penso che si sia guadagnato di andare avanti ancora un anno. Intanto la Lazio ha sfiorato il pareggio, certo. Sul calcio di punizione di Biglia, Viviano ha messo in calcio d'angolo. E quindi c'è l'ultimo assalto della Lazio. Bella, certo, parata quella di Viviano. Ti do intanto gli altri risultati. Atalanta-Chievo 1-0, Boriello decimo sono del secondo contento, tempo, Tappin su una traversa di diamanti, esatto. Poi 2-0 del Bologna sul Genoa, Giaccherini nel primo tempo e Floccari nella ripresa. Ai. E come ti ho detto, il Sassuolo che ha vinto 3-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino, perché oggi c'era anche la prima volta dello Stadio Grande Torino. E poi è finita adesso Sampdoria-Lazio ed è finita 2-1 per la Samp. Per la Sampdoria, bene, abbiamo rilanciato l'amico Montella. Bene Capuano, sempre mai una gioia, te voglio soprannominare. Alla prossima, mai una gioia. Alla prossima. Ciao Capuano e soprattutto ciao radioascoltatori, sia dopo, fra un po' con tutti i convocati ovviamente, e con noi domenica prossima con Voice Anatomy. Grazie per volerci così bene.